Luciano, posso farti una domanda? Mi piacerebbe che tu facessi una trasmissione una sera, una puntata, su qualcos'altro che la politica. Parliamo di Parenzo, un'idea di estetica, di cosa, ma anche di figo, non so io. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Tu, tu pure sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci sono volpi di qua, stofanti di là, mille topi, tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Co-co-co, cucurucurucuru, cucurucuru, qua qua. Chi-chi-chi, co-co-co, cucurucuru, cucurucuru, qua qua. Con tanti galli che cantano. Bisognerebbe dire alla sindaco di Firenze, caro Parenzo, Matteo Renzi, che certe battute portano veramente sfiga. Dire li asfaltiamo, li distruggiamo, li smacchiamo, la macchina da guerra, com'era? Gioiosa, la gioiosa, gioiosa macchina, macchina da guerra porta una sfiga pazzesca. Un tantinello. Se votassimo adesso li asfalteremo. Cos'è che ha detto Renzi? Li asfaltiamo. Che poi non è vero, perché dai sondaggi non è vero. È vero che Renzi è personaggio sempre dai sondaggi più gradito, ma l'avete visto il Berlusca in campagna elettorale? Cosa come è capace di fare? Come un leone puliva le sedie del signor Travaglio, il signor Berlusconi. Renzi, su. Loro sono al governo e pensavano di non tornarci. E se vanno alle elezioni, lasciami dire che io penso che stavolta noi non commetteremo gli errori dell'altra volta, che questa volta li asfalteremo e che quindi loro non vogliono andare alle elezioni. Loro hanno paura delle elezioni. Poi in parte è vero quello che dice Renzi, alla fine, come io ho sempre detto, peraltro a Berlusconi l'unica cosa che non conviene è andare alle elezioni. Dunque, cosa fa nella sua strategia? Affida il partito, vorrebbe affidare il partito ai cosiddetti falchi, e invece lasciare in piedi il governo. Va bene, questa è la zanzara 800240024. Questa sera abbiamo esordito in maniera molto noiosa sulla questione Renzi, che novità, però novità sul Concordia, sulla Concordia. No, però Saviano ha detto una stronzata. Attenzione sulla vicenda della Concordia, perché oggi fioccano. Il signor Saviano. Beh, una cosa agghiacciante. Cos'è che c'è Cicchitto di Saviano? Non lo so. Poi lo rimandiamo in onda quello che diceva Cicchitto di Saviano. Allora, cosa dice Saviano? Adesso non lo trovo. Prima intanto sentiamo, sono però stati superati i 10 gradi di rotazione. No, ma dai, me ne sbatto. Dai, ma perché mi devi parlare della Concordia? Non voglio parlare della Concordia. 10 gradi di rotazione. Non mi interessa, non voglio parlare di questa roba. Fammi sentire Renzi che dice: oggi ha incontrato Cavalli, è andato alla presentazione del libro del signor Cavalli. Cavalli, il suo stilista? Sì, lo stilista, sì. Senti. Il bello che canta, non ci casca. Io non sono venuto leopardato a presentare il libro di Roberto Cavalli. Non credo di avere le physique du rôle. Eva mi guarda. No, sono qui non a giocare la parte di una questione di immagine. Sono qui a dire che c'è un signore che a Firenze, partendo dal niente, ha messo su un'impresa mondiale. Per me era un buon motivo per essere insieme a Roberto oggi. Vabbè, le polemiche per la presenza di per il fatto che Salvini è un'altra Salvini persona che sta povero che Salvini, fra poco chiameremo, non c'entra niente. Che Renzi, che Renzi è andato a fare una conferenza stampa di presentazione della biografia di Cavalli. Ma di che stiamo parlando? Ma perché fa? Ma perché non può andare? Ma chi fa polemiche? Ma no, ma ci sono polemiche in rete, è andato ma alla ci presentazione. Ci sarà una differenza tra l'andare alla presentazione del libro di Cavalli ed essere coinvolti in inchieste giudiziarie, ad esempio, no? Ma che c'entra questo? Beh, va sempre ricordato. Non c'entra nulla, sì. Dai. Oh, Santanchè dice in un'intervista che Alfano non sarà capo di Forza Italia, eccetera, eccetera. È rispuntata fuori la senatrice Abita, Cattaneo, la neo senatrice Abita. Ma io ogni Abita minuto voglio aggiornare sulla rotazione del Concordia. Non mi scassare la minchia su questa roba qua, dai. Non frega niente a nessuno, la gente guarda le immagini, spettacolari, eccetera, eccetera. Speriamo che vada tutto bene e basta con le metafore. A proposito di metafore, Saviano, senti, dietro la morbosità dei media nell'osservare le operazioni all'Isola del Giglio, forse c'è qualcosa di più profondo della speculazione sul disastro celebre. sembra muoversi un impronunciabile sogno da subcosciente. Se si raddrizza, perdonatemi per questa frase, perdonatemi! Se si raddrizza la nave, simbolo di un paese alla deriva che lentamente affonda, c'è speranza magari che si raddrizzi l'Italia e che torni a galleggiare. Ecco, questa è la stronzata di Saviano. Beh, sì, in questo caso sì. Oh, la senatrice a vita Cattaneo dice: io andrò in Senato quando ci saranno le istanze sulla ricerca. E il resto delle volte invece. Boh. No, allora io andrò in Senato nel momento in cui ovviamente ci saranno delle situazioni, degli argomenti, delle istanze da portare che riguardano gli ambiti che conosco. No, quindi io penso che appunto io non posso cambiare vestiti, questo è il mio habitat ed è quello su cui penso di poter contribuire, non ho altre competenze. Chiaro. Ma scusa, cara signora Cattaneo, se lei vuole andare solamente quando ci si occupa di ricerca, cioè mai, ma che cazzo ha accettato a fare? Cosa ha accettato a fare? Forse per prendere lo stipendio da ben 12.000 euro al mese? Chiaramente lasci lo stipendio perché non c'è compatibilità tra stipendi pubblici, quindi sì, mi troverò a fare quindi due lavori. Avrà quello da senatrice che sono circa 12.000 euro netti. È un numero consistente che andrà studiato e impiegato al meglio per far rendere questa opportunità. Vabbè, di una noia mortale quando parla però, eh. Dovrebbe mandarla una cosa pazzesca, deve intervistarla, no? Sì, sì, seriamente anche, no? Sì, chiedendogli appunto. Seriamente, certo, non c'è dubbio. La sensibilità che porterà a Palazzo è tornato Madama. Sgarbi. Dove? Il reato di evasione è irrilevante. Ecco. Mitico. Non capisco perché, visto che si parla di reati odiosi, risulta che sia stato arrestato Valentino Rossi, Luciano Pavarotti, Dolce e Gabbana? Cioè, io non capisco bene perché per un reato irrilevante, che è pagare 500. Qui c'è la frode fiscale, però, diverso frode, dall'evasione. La frode fiscale l'ha fatta con Fornieri. Perché evadere non è frodare? Le grandi argomentazioni di Vittorio Sgarbi, le grandi cavi, il grande giurista Sgarbi spiega l'evasione fiscale. E dice anche che la Severino è una cagata. Ma tutte le papere piango. Senso di colpa, niente, che siamo colpevoli, puniamoci. Siccome c'è Fiorito, facciamo la Severino. La Severino è una cagata totalmente incostituzionale. Come l'ha pensata Potioli? Un Diemi, no, volevo interessare a sentire il suo parere. Perché una cagata incostituzionale. Vabbè, siamo qui, 800240024, primo ospite della serata. Ma tu sai, caro Parenzo, che il signor Bossi, che ancora è lì e combatte come un leone, L'Umberto. Signor Bossi ha dato del frocio, sostanzialmente, lo dico io, lo traduco per tutti, linguaggio popolare per tutti, ha dato del frocio, della checca, a uno degli uomini più forti della Lega, signor Tosi, sindaco di Verona. No. Sì. Ha detto, ma a Calderoli, ma sì. Tu, a te piacciono sempre le donne, non sei come quello lì, come quello, il sindaco. Come quello di Verona. Verona. Dunque gli ha detto fascista, stronzo. Fascista. Stronzo. E poi frocio come Cruciani nella radio 24. Matteo Salvini è con noi, buonasera. Buonasera a voi e a chi c'è ancora all'ascolto. Come chi c'è ancora? Come ancora? Che dice? No, dopo la spatafiata di delirio che mi sono goduto anch'io. Beh, scusa un attimo, allora chiariamo subito. Ma dov'è signor Salvini? In Europa, a Milano, dov'è? Dov'è? In Lombardia. Che l'è? È in Lombardia. Dov'è che l'è? Viene con me a Bruxelles se vuole giovedì. No, giovedì. A Napoli andiamo noi. No, a Napoli a me pagano per andare a Bruxelles, non a Napoli, quindi buon viaggio. Ma perché? Non ho capito, non verrebbe con noi a Napoli, San Salvini? No, per carità di Dio, però la riunione ce l'ho a Bruxelles, non a Napoli. Sì, ho capito, ma lei non verrebbe con noi a Napoli? Così astrattamente parlando. No, mi dicono essere bellissima città, anche se non ho tanti amici, ma anche qualche nemico da quelle parti. Quindi, però, ho capito, ma meglio lei a Napoli o sul Monviso? Ma lei verrebbe a Napoli con noi, sì o no? Assolutamente volentieri. Ma solo con noi può andare, perché se lei si presenta da solo all'aeroporto di Capodichino o alla stazione centrale senza un travestimento, mi sa che se la passa male. Diciamo che il tifo e i cori da stadio non mi hanno aiutato da questo punto di vista, e quindi. Cioè, mi sta dicendo che lei non è mai andata a Napoli in vita sua? Ci sono andato una volta per mezza giornata ed è stato. Ma non ci può più andare, non ci può più. Diciamolo tutto. Per sicurezza non ci vado. Diciamo che ci andrei molto volentieri, se ci vado devo avvisare la questura. Addirittura. Ah, addirittura. E vabbè. Vabbè, ma scusi, capita. Ma come la mettiamo con, cioè, la famiglia? Cioè Salvini come Saviano, no? Infatti io so una cosa in realtà, non la dovrei... Il segretario della Lega di Brescia si è preso due pugni in faccia, un punto di sutura, 10 giorni di prognosi, perché è stato aggredito mentre passeggiava da due autonomi a Brescia. Quindi ma che c'entra Napoli? Beh, appunto, per trovare Pirla a volte basta uscire di casa. Sì, no, ma questo va bene, questo si sa. Però lei dice, io vado a Napoli e insomma non posso andare senza vedi Napoli e poi muori, si dice, no? Infatti, che se trovo un ultra del Napoli magari avrebbe qualcosa a che dirmi, con i cittadini non ho nessun problema, con i super tifosi magari qualche problema proprio. Scusi Salvini, però io dico una cosa, ma se mettiamo la sua compagna, la sua famiglia, dice facciamo una bella gita a Napoli, come va a finire la storia? Ci vado. Un po' travestito, diciamo. Sperando che essendoci di mezzo donne e bambini nessuno faccia niente. Con un bel travestimento, su, diciamo la verità. Bisogna andarci col cappellino. Scudo del loro corpo, ovviamente. La cosa da fare. Cioè, abbiamo capito stasera che Napoli è un pericolo per Matteo Salvini. Cioè, non può andare a Napoli. Questa è una cosa grave, però, se uno ci pensa. Se vi posso usare. Sì, purtroppo in Italia c'è qualcuno che dalle parole passa la violenza e non è mai utile. Faccia un appello ai tifosi del Napoli. Ma l'è stato sconsigliato? Sì, in passato sì, e comunque accetto inviti volentieri su Facebook da parte di napoletani e napoletane con cui chiacchierare amabilmente. Non succederà questo, su Facebook e su altri social networks la aggrediranno verbalmente. Ma no, allora... ma no. Sei ancora a casa, Simo? Sì. Caro senatore dell'Utri, siamo ancora qui e siamo qui con Matteo Salvini, che potrebbe diventare tra qualche mese il segretario, il grande capo della Lega. Chi l'avrebbe mai detto? Questo è buono. Cioè, una volta l'ho incontrato. Io lo conosco fin da quando era al ginnasio, figura. No, al ginnasio no, però insomma, quando... Diciamo che qualcuno, mi sa che in famiglia qualcuno fa resistenza su queste ipotesi. Addirittura? Sì, è chiaro, uno... Cioè, arriva da gli affetti più cari, no, il cerchio magico degli affetti, ma sì, dice. Perché insomma, diciamo la verità, è normale, insomma. Ma è normale, uno un impegno così gravoso che lo porterebbe lontano dal focolare domestico lombard, o sbaglio? Beh, sarebbe una sfida affascinante, impegnativa, e che vabbè, adesso, questo, 7 giorni su 7, quindi sembra di sentire parlare Rotondi, una sfida affascinante. Non mi faccia Rotondi. No, per pietà, no, Rotondi no. No, non mi faccia Rotondi. Io voglio capire una cosa, è Tosi, è Frocio o no? Io questo vorrei capire bene, perché questo è un sasso buttato lì in maniera violentissima a signor Bossi. Conosce lei Bossi, no? Sì, lo conosco. Ne ha sentito parlare? Lo conosco e lo stimo per quello che ha fatto e per quello che spero potrà continuare a fare. Che non sono queste sciocchezze qua, che non parla, sono queste cazzate qua. Parole in libertà, cazzate, parole in libertà. No, inutili, chiedetelo alla moglie di Tosi, non mi risulta non è un mio problema, ma anche se fosse sarebbe l'ultimo dei miei problemi. Poi, cioè non sarebbe un problema, insomma. Se uno è gay. No, se Tosi fosse gay non sarebbe un problema, insomma. Partendo dal presupposto che Tosi non è gay, se Tosi fosse gay o se Salvini fosse gay, se qualcuno avesse un problema per questo sarebbe un cretino. Però d'accordo, questo ma lo capisco. Ma perché Bossi l'ha detto allora, scusi? Perché, perché non gli sta simpatico e perché rimanendo un po' fermo al passato, secondo me, ritiene che Frocio sia un insulto. Prima gli ha dato del fascista e poi dello stronzo. Per quanto riguarda il fascismo archiviato nei libri di storia, dello stronzo cerco di non dare nessuno, a volte mi scappa, del Frocio discutiamo dei, cioè, omofobo, è un Bossi omofobo, diciamo la verità, un Bossi che odia i gay. Ma no, non penso, perché lo dice così, simpaticotosi sicuramente, però vabbè, questo l'abbiamo capito, non aiuta lui, non aiuta la Lega, non aiuta Verona, non aiuta la causa della Lega. Cioè è meglio se stava zitto. Assolutamente sì. Ma cosa gli hai preso? Ma come mai questa cosa nei confronti? Cioè, è possibile mai che esca questa battuta? Ci sarà un fondo di una diceria, come mai? Cioè, proprio quella roba lì, uno può dire mille cose, no? Però è fascista perché si dice che era di destra. Stronzo, beh, è una cosa così perché gli sta sulle palle. Essere di destra non è ancora. Ma ce l'abbiamo la prova? Reato, no, ma ce l'abbiamo la prova che non sia gay o no? Ma non lo so, chiedetelo a lui, ma non vado a cercare prove, è sposato e quindi immagino che non si sia sposato per hobby. Detto questo, è pieno di sposati gay, totalmente, come sappiamo, no? Totalmente contrario, ad esempio, alle adozioni di bimbi per coppie di gay o lesbiche. Su questo non, nessuno mi convincerà mai del contrario. Su tutto il resto ognuno vive la sua no, vita. Vabbè, ma questo adesso non stiamo parlando di questa roba qua. Il problema è questo: il signor Bossi l'avete lasciato lì solo sul Monviso col dio Po, e poverino, una volta ci andavate tutti quanti, l'avete lasciato lì solo, è ovvio che poi gli parte la brocca, no? C'erano centinaia di persone, c'era ma perché non andate più lì sul dio Po? Non esiste però, più. Scusi un attimo Salvini, la realtà è questa: perché ha detto che è malato? Alla fine nell'intervista di Repubblica di Tosi è uscita fuori una realtà. Cioè, Tosi che dice, sì, vabbè, io non parlo male delle persone malate. Ha ragione Tosi, o no? È malato, dai. Che Bossi abbia avuto, ahimè, e hai chiunque persona normale, un ictus, è lì da vedere. C'è qualche cretino, anzi c'è qualche coglione, a proposito di Facebook, ancora stamattina, che si diverte a ironizzare su una malattia che penso sia la cosa più demenziale del mondo. Ma quello no, quello non si può fare. Io mi auguro che la si chiuda da tutte le parti. Ma da tutte chi è? Qui è Bossi che parla. Qui è Bossi che dà del frocio a Tosi, non Bossi del frocio. E allora poi c'è quell'altro che dà del malato. La carica Bossi. Io penso che quei problemi che ci sono con gli operai. Cioè ha sbagliato anche Tosi a dare del malato a Bossi, questo vuole dire. Io penso che la gente ne abbia le palle piene degli insulti, delle ripicche, delle polemiche interne ai partiti. Cioè, se Renzi vuole asfaltare, lasciamolo asfaltare. Ci sono gli operai della Riva che rischiano il posto, quindi non è che dandosi dei froci o dei malati si faccia fare un passo in avanti alla politica. Scusi Salvini, ma se lei anche se poi, diciamo la verità, giustamente lei dice di tutti i colori, per cui lei che può dire agli altri siate più educati, un po' più soft nel linguaggio, eccetera. Lei non è l'uomo del linguaggio, come dire, leggero, è uno che la dice dura. Tendo a dire nel bene e nel male, probabilmente è un difetto o magari un pregio di dire quello che penso. Appunto, dico. Ma le fa schifo la nomina di Amato, per esempio? Quanto le fa schifo la nomina di Amato alla Corte Costituzionale? Mi fa uno schifo pazzesco. Così come la nomina di 4 senatori a vita, penso che sia una presa per il culo per gli italiani. Vabbè, ma insomma, Marco, ma sono persone che portano lustro. Qualità delle persone. Ma lei vada a dirlo all'operaio della Riva che rischia il posto che c'era bisogno di 4 senatori a vita o di mettere Giuliano Amato come giudice supremo. Un giudice ci voleva. Diciamo che si poteva cercare qualcuno con più esperienza ma se c'è una cosa che non manca ad Amato, cioè, è magari qualcuno che non aveva, che non cumula le pensioni, eccetera. Ci siamo capiti. Che si può mettere Briatore però nella Corte Costituzionale, cioè, non mi dica, scusi, che è meglio alla Corte Costituzionale, è meglio che ne so, sì, ma perché non c'è un magistrato, non c'è un avvocato che magari non porta a casa 20.000 euro di pensione al mese che avrebbe potuto andare a fare il giudice costituzionale. Ma voi ce l'avete un costituzionalista da mettere lì? Chi è che si può... Uno vostro, meglio di Amato, ce l'avevate o no? Chi avrebbe nominato lei? E chi c'è? Ti porto 30 curriculum di professori universitari che farebbero sicuramente meglio. Boso alla Corte Costituzionale. Uè amico, Boso. Uè amico. Vabbè, comunque spero che il congresso della Lega sancisca... la fine di queste beghe, di queste ripicche, di queste polemiche. Senta, ma le Olimpiadi a Roma cosa sarebbero secondo lei? Ma i mondiali a Roma sono stati un buco colossale che i cittadini italiani tutti stanno ancora ripagando. Ma è come farle a Calcutta le Olimpiadi a Roma? No, questo lo dice lei, adesso non mi metto. Già ho difficoltà ad andare a Napoli, poi vorrei tornare ogni tanto anche a Roma. Ma in Parlamento, se lei fosse in Parlamento, voterebbe la decadenza di Berlusconi o no? Beh, certo. Dica la verità, però sì, non facciamo le cose diplomatiche, perché adesso forse diventa segretario della Lega. Se fosse in Parlamento, lei la voterebbe la decadenza di Berlusconi? Il dibattito sulla decadenza di Berlusconi... È noioso, lo so, è noioso. Mi ha depresso. Mi ha fracassato i coglioni. Anche, io dico direttamente che mi ha fracassato i coglioni, anche a me mi ha fracassato i coglioni. Però... Siamo in due. Benissimo. Non avendo letto le carte, politicamente a spanne. No, secondo me, per quello che ho letto, una legge in un paese civile vale dal giorno in cui la approvi in avanti. Ma pure lei per questa cosa della retroattività, ma l'hanno scritta in fretta e furia apposta perché era per quelli che sarebbero stati eletti dal 2008 in poi, in parte. Cioè, ho capito, normale. so che non siamo un paese civile, perché la riforma Fornero ha ciulato la gente anche per anni indietro. Scusi, però lei ha detto prima sui gay, non voterei per la decadenza di Berlusconi. Non voterei per la decadenza di Berlusconi. Ah, non voterebbe per la decadenza di Berlusconi. Assolutamente. Se va sconfitto, va sconfitto. Cioè, resti in Senato, resti in Senato. Ma questo Beh, ho capito, se non vota la cadenza la resta. No. Non userei la giustizia e la magistratura per far fuori qualcuno politicamente. Cruciale la fa culo, però non sei Cruciale. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. Questi due disgraziati pidocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi. L'aria nel letto che mi graffia tutto. Cosa ti devo fare? Ti farò quello che vuoi. Non siete seri per niente. Questo ormai che cosa sei riuscito. Ma infatti non vogliamo assolutamente essere seri. 800240024, questa è la zanzara. C'è la nuova destra, caro Parenzo. La nuova destra che è apparsa. Ma cos'è? Che è apparsa al convegno di Giorgia Meloni, come si chiama? Atreju. La festa di Atreju tutti gli anni, no? Sì, tutti gli anni. Atreju, sì. A Roma. La conosci? Sì, certo. No, come c'è stato, c'è stata una foto, lei, una foto in cui c'erano c'erano la nuova destra. La russa. Ho visto io, sono la russa, ho riconosciuto. Poi c'era in primo piano la russa. Urso, signor Urso. Ah, Adolfo Urso. Poi c'era Giulio, com'è l'ambasciatore, l'ex ministro degli esteri? Sant'Agata. Sì, no, il nome completo qual è? Giulio, che è Sant'Agata? Di Sant'Agata. Giulio Terzi di Sant'Agata la Pesca. Quanti erano? Giulio, Terzi, Poi dietro anche c'era la foto del signor Magdi Allam. Magdi Cristiano. Ogni volta mi danno questo Magdi Cristiano, divento pazzo. Comunque lei, senti questa cosa, sì, bisogna difenderci dal globalismo, dal multiculturalismo, dall'islam, il signor Magdi Cristiano Allam. Dobbiamo affermare nella nostra proposta politica la salvaguardia dei valori, dell'identità e della nostra civiltà dall'aggressione del globalismo, dell'immigrazionismo, del multiculturalismo, del filo islamismo. Signor Allam è animato da odio verso Islam, il signor Magdi Cristiano Allam, e non è buono, non è buono. Ma di che stiamo parlando? No, questo ma sì, appunto, lo diciamo di che stiamo noi, parlando, lo diciamo noi, di quello che dice il signor Allam, Magdi Cristiano Allam. Ma senti la russa, anche la russa. La chienghe di cui avete appena parlato, l'unica riforma possibile, ce l'ha già detto. Non si chiama più papà, non si chiama più mamma, bisogna chiamare genitore 1, genitore 2. Ho già detto che dovremo cambiare le canzoni, che invece che viva la mamma si canterà viva il genitore 1, e quando in chiesa dovremo pregare cominceremo invece che padre nostro diremo genitore 1 che sei nei cieli. No, non voleva dire questo la signora Chieng, non è che volevamo dire. È una libera interpretazione del signor La Russa questo. Vabbè ragazzi, siamo sempre al top qua, non ci fanno mancare niente, e non grasso? Ci fanno mancare nulla. Che ma c'è sì, lo so, non vuoi parlare che di c'entra questo. Grasso dice non mi opporrò a voto palese su Berlusconi, qui verrà fuori una bagarre. Questo ma è chi importante. Se ne frega. Questa è una, io posso importante dire una cosa, ha ragione Grillo, quando dice che tutti i voti dovrebbero essere palesi. Appunto. Tutti i voti dovrebbero essere palesi. Ma ora palesi lo dice anche il Presidente del Senato però. Sì, ma no, ma violando una prassi storica. Ma non me ne frega niente delle prassi storiche, tu dimmi che senso ha. Gli eletti devono votare a viso aperto. Ma certo. Io voto contro la decadenza di Berlusconi o a favore della decadenza di Berlusconi a viso aperto, sì, spiegando le mie ragioni, portando avanti la mia bandiera. Su questo sono d'accordo, ma le ricordo che c'è, ma potremmo analizzarlo nel dettaglio, un istituto che la nostra carta prevede, i regolamenti della Camera stai prevede. Stai zitto, a TG3, titoli. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3. Di Bersani. Da stamattina le operazioni per la rotazione della Concordia, ai tecnici per ora tutto ok, ma servirà più tempo, finora nessun danno per l'ambiente. Al Senato la battaglia sul voto segreto, i grillini usciremo dall'aula, poi ci ripensano, Grasso non mi opporrò al voto palese. Il cavaliere è pronto a rompere il silenzio estivo. In settimana è un videomessaggio, ma nel partito esplode lo scontro tra falchi e colombe. Letta si è alzato lo scontro politico, ma non possiamo essere io e Napolitano i soli a tenere in piedi il sistema, mai pensato di lasciare. Negli stabilimenti del gruppo Rio a presidi e cortei contro gli esuberi decisi dalla proprietà, vertice tra ministro ed azienda. Nuova strage negli Stati Uniti, 8 morti nella base della Marina, Washington in 3 a sparare, Obama un atto di codardia. Il rapporto degli ispettori dell'ONU sull'uso di gas in Siria, usati razzi con gas sari, il Ban Ki-moon, un crimine di guerra, sanzioni. Oh, vogliamo sorvolare su quello che è uscito fuori nel weekend, cioè i 150.000 euro chiesti da Amato, nuovo giudice costituzionale, per il finanziamento del circolo tennis Orbetello, soldi chiesti ai vertici del Monte dei Paschi di Siena, non dico in cambio dell'elezione, però mentre si stava discutendo dell'elezione di Mussari all'ABI, ne vogliamo parlare o no? Ti leggo un tweet del signor Nicky Bendola. Signor Amato, signor era Nicky Bendola. Il dottor Sottile. Aspetta, aspetta, non vuoi parlare male di Amato, hai paura. Io? Ma hai come l'ho inseguito aspetta, tempo fa. Aspetta, l'idea che giganti come la Concordia debbano affacciarsi a Piazza San Marco è insopportabile, è un'idea insopportabile alla quale bisogna reagire con durezza. Beh, certo. Dice, beh, a condurre, ma che famo? Ma l'assalto ai bar. No, è che lei. No. Una manifestazione? Un attacco ai cantieri? Ma quello è un problema vero. Ma sarà un problema di Venezia. È un problema vero. Ma chi di Venezia? Ma lì è un problema vero. Perché il sindaco Orsi non ha nessun potere e ci sono queste navi enormi, questi mostri. Ma che stai dicendo? No, perché non sai le cose. Ma portano soldi. Il sindaco Orsi non ha nessun. Il sindaco di Venezia non ha nessun potere. Non può togliere il mettere, vietare la circolazione delle navi sul Canal Grande davanti a San Marco. Non sai quello che dici. Non sai tu! Il sindaco di Venezia non può! Non può! Ho fatto una battaglia con lui tempo fa, ne ho parlato vis-à-vis. Rotondi! Ma adesso te voglio mandare io l'ambulanza, dimmi dove stai. Ecco, mandagliela. Rotondi, no in lista con me, ma quale lista poi? Se hanno un avviso di garanzia. Cioè, i comitati per Rotondi Premier prepareranno delle liste elettorali, che sono quelle di cui io rispondo. E quelle liste lì applicheranno il codice deontologico della Democrazia Cristiana, libro polveroso e vetusto, gliela metto in breve. Va bene. Con noi e può essere candidato solo chi non ha mai ricevuto nemmeno un avviso di garanzia. Va bene, Fiorella da Napoli, buonasera. Qua, Fiorella sta qua. Dica. Pronto, allora, io sono molto nervosa, ma non perché hanno un modo di parlare da fanatici. Ma chi? Ma di chi parlo? Del signor Salvini. Che è successo? Che dovrebbe venire un poco a Napoli per rimarare un poco di amore. Mi fate la festa. Perché noi qui napoletani siamo molto. Lui si è dimenticato quando ha detto che il Vesuvio deve sprofondare Napoli e tutti i napoletani. Vabbè, allora. Venite a Napoli perché i napoletani hanno il cuore, hanno amore, vengono tutti del nord a Ischia. Ma quello non vuole venire perché ha paura di essere mazziato. Sono la prima ad andare all'aeroporto a prenderlo. Ecco, appunto, allora c'ha ragione. C'è mia figlia che lavora all'aeroporto, quindi io vado là e lo ricevo. E come lo riceve? Lo ricevo a casa mia. Ah, a casa sua, non con le io mazziate. Faccio vedere però un poco come si vive a Napoli. Vabbè. Questo signore, Fiorella, che non ha proprio idea. Perché non è mai venuto a Napoli. I torinesi, gli amici nostri torinesi, gli amici nostri del nord del Brennero vengono e dicono che abbiamo un cuore d'oro. Va bene, grazie Fiorella. Il cuore d'oro di Milano e di Napoli. Benissimo. Maurizio da Milano, buonasera. Oh, buonasera, Luciano. Vada. Vorrei azzardare una previsione. Qual è? Quella per il voto della commissione. Che Berlusconi salvo. Ma salvo, siccome sarà il voto ovviamente segreto, con i 4 voti dei grillini. E perché i grillini dovrebbero salvare Berlusconi? Non è che lo sabato, ma per un semplice motivo, perché a quel punto sarà colpa del PD. Ah, per attribuire, sì, ho letto da qualche parte, per attribuire poi la colpa al Partito Democratico. Ma sarà sicuramente così, perché poi fatemi vedere i conti. La commissione di 23, Berlusconi conta su 8 voti, il PD ne ha 8, i grillini ne ha 4. Quindi i 4 dei grillini mi non giocherei... Credo. Perché tutte, viene fuori tutte. Ah, così poi Grillo può attaccare il PD e certo, certo. Nicola, provincia di Latina, grazie. Nicola, provincia di Latina. C'è gente intelligente che ascolta la trasmissione. Dica. Pronto? Vada, dica. Sì, buonasera Cruciani. Volevo fare un intervento in virtù di quello che avete detto in venerdì sera. Avete avuto un vostro ospite. Noi non ce ne frega politico. Niente di venerdì sera. Abbiamo già dimenticato, noi dimentichiamo tutto dopo 2 secondi. Vabbè, comunque quel signore che Dica, parli, dica la sua. Venerdì sera è morto, venerdì sera è finito. In piazza e si bloccheranno i camion della benzina per Berlusconi, ma qui non si bloccano i camion per la benzina, sì, neanche per i nostri figli, immaginiamo un po' per Berlusconi. Ma quelle sono tutte puttanate. Volta, lei ha detto che si è arrabbiato con un suo ascoltatore in virtù del fatto che gli ha detto noi non siamo in democrazia. Io sono d'accordo con lei, ma è una mezza verità il fatto di essere in democrazia. Sì. È vero che io e lei adesso parliamo alla radio, esprimiamo le nostre opinioni. Sì. Ma parliamo sempre dello stesso Stato, per esempio, faccio un esempio, che ultimamente ha messo sulle polizze vita una retroattività. Quindi voglio dire, è vero che ci danno il contentino di parlare alla radio o altre cosine, però nel concreto poi, tutta questa democrazia io non la vedo, sa, non vedo troppa differenza tra chi non la consente come un dittatore. Sì. Da chi non la consente come un dittatore e chi si fa le leggi affinché poi questa cosa di fatto non possa essere esercitata. Non ho capito niente. Purtroppo a me questa trasmissione un po' piace, anche se mi fate rompere coglione. Giuseppe, Davide, vi voglio bene. Davide, Giuseppe, vi voglio bene. Sentite quello che dice il grillino Giarrusso, che fa parte della commissione al Senato che dovrà decidere sul futuro politico di Berlusconi. Signor Giarrusso, cosa si sente quello che si dice in commissione, Giarrusso? La Severino, dobbiamo sempre ricordare, che è stata approvata dal suo governo e dalla sua maggioranza. La battuta fra gli avvocati, un po' greve, era che forse doveva pagare qualche avvocato in più e qualche donna in meno, si sarebbe accorto della Severino, no? Signor Giarrusso, signor Giarrusso. Questa non è male. Ma fa impazzire questi saggi che vanno, no, dove che vanno a Francavilla, no? Col pullman sono andati, sono stati accolti da una manifestazione di protesta, ho visto. Sì, ma quattro gatti, dai, su, andare a protestare davanti all'albergo dove stanno i saggi, dai, su, bisogna veramente avere nulla da fare dalla mattina alla sera per andare a protestare a Francavilla davanti all'hotel dei saggi. L'arrivo dei saggi. Ma uno perché va a protestare, secondo te, davanti all'hotel dei saggi? Devi essere malato, cioè se sei un po' malato, bagato in testa, vai a protestare davanti all'hotel dove stanno i saggi. Beh, perché c'è questa sana indignazione popolare. Ma quando mai? Senti Donofrio, che ti ricordi quello che ci ha detto, no? Pensiamo gratis. Stiamo lì a pensare gratis. Siamo persone che pensano gratis dell'interesse della Repubblica. E io vorrei continuare a pensare liberamente. Non è una cosa che mi... Sarei lieto di continuare a poter pensare gratis dell'interesse della Repubblica. Se sta cosa la fastidia a qualcuno, mi dispiace. Bene, abbiamo con noi un membro del PDL della famosa giunta delle elezioni, di cui mai si è parlato così tanto come in questo momento, la senatrice nonché avvocato, anche lei, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Buonasera. Buonasera. Come sta? Come sta? Mia concittadina patavina, la senatrice. No, ma che è? Di Treviso, non è? Non sai niente. Non so niente. La senatrice Casellati, docente di diritto ecclesiastico, è padovana come sottoscritto. Ma servirebbe il diritto ecclesiastico a Berlusconi? Si può applicare, secondo lei? Esiste la retroattività nel diritto ecclesiastico? È un altro stato, deve essere giudicato da un altro stato. Ma fosse alla Città del Vaticano, sarebbe difeso, cioè la questione della retroattività sarebbe già risolta? Secondo lei, no? Non mi dica che non sa il diritto canonico. Sì, lo sa, lo saprà. Sarebbe già risolta e sicuramente non con la grazia. E in che modo sarebbe risolta, scusi? No, lo dico perché trattandosi di diritto canonico è chiaro che uno potrebbe richiamarsi a questo concetto. E quindi l'ho detto, no, sarebbe anche lì retroattiva, ma in tutto il mondo non è retroattiva, soltanto nelle dittature. Ma questa è una cosa perché noi che siamo una dittatura? Sapete anche voi. Noi siamo una dittatura? Noi non come siamo una dittatura. Però. Appunto. Se si appunto. Applica in questa maniera vuol dire che c'è una... disarmonia, disarmonia. Un vulnus nella nostra democrazia, nella Costituzione che viene sempre invocata da tutti, però poi quando si tratta di applicare Berlusconi. Una legge sì. E il soggetto è Silvio Berlusconi, chiaramente si stravolgono tutte le regole come sta succedendo. Però scusi un attimo, io sommessamente, senatrice Casellati, vorrei farle notare. Ma non fare cosa. Come ha fatto Travaglio, perché sennò. No. Ma lei andrà mai a un altro dibattito con il signor Travaglio, innanzitutto? Oppure ha definitivamente rinunciato dopo che le ha dato, che ha detto che dice puttanate? Che abbia rinunciato lui, per la verità. Beh, lui sì. Chi voleva andarsene è stato lui, non io. No, ma lei ci andrà ancora a un confronto con Travaglio? Sì, se può. Guardi, non è uno dei pensieri che mi occupano. Vabbè, quello è beh, però è un bravo giornalista. Dire, Travaglio è documentato. Com'è? È documentato, dico un bravo giornalista, un bell'uomo. È un cafone? Guardi. Bell'uomo sì, dai, su, non è beh, brutto. Quello almeno sì. Guardi, non faccio fatica ad esprimere un giudizio estetico per una persona così sgradevole. Addirittura, è talmente no. Sgradevole che proprio copre qualsiasi tipo di giudizio. Non, addirittura. Non riesco a vederlo. Non riesco a guardarlo. Come uomo, non riesci a vederlo come uomo. È un fantasma, un ologramma addirittura. Ma no, è inqualificabile, pertanto non riesco neanche a dare un giudizio... di carattere estetico. Cioè, ma non ci andrebbe a cena una sera? Non andrebbe a cena una sera con il signor Travaglio? Guardi, se voglio non digerire, ma siccome quando mangio mi piace pure digerire. Ma non capito, ma perché? Oh, uno perché? Chiuse è le costretto. Polemiche, uno può andare a cena a mangiare cacio e pepe con il signor Travaglio, che è una persona di un assesso di umorismo. Non ha idee migliori, penso che ce ne possano essere. Scusi. Per trascorrere una serata... piacevole. Ma cosa c'è di peggio? Di quelle, Ma che c'è di peggio per lei? Cioè, le dicessero a cena con Travaglio, guardi, di peggio non, cosa io, c'è? Io di solito cerco di fare delle cene piacevoli. Eleganti. Penso, eleganti. Se non voglio vomitare, dice, se non voglio vomitare. Argomento perché questo penso che siamo già arrivati a un livello di saturazione. Vabbè, adesso questo qua un po' decidiamo noi. Però voglio dire una cosa, Eva Casellati. Sì. Avvocato Casellati. Avvocato Casellati. Cioè, lei addirittura le verrebbe da vomitare. No, ma questo qua. No, guardi, io non uso. Ha detto se voglio digerire. Come Travaglio. Cioè, non mi metta sullo stesso livello perché. No, ma lei. Non ho detto niente. Ma è più bello Berlusconi o Travaglio? Esteticamente, non giudizio estetico. Estetico, esteticamente. Non ci mettiamo su questo. Non c'è dubbio io su questo. Le persone le giudico per il loro valore. Vediamo, è bello, brutto, insomma, non siamo bambini. No, però dai, facciamo ragionamenti seri. Ha fatto bene la Santanchè a dargli il delinquente? No, guardi, ognuno agisce come vuole. A me risponde non piace di se dire ha fatto bene questo, ha fatto bene l'altro. Parliamo di noi, su. Parliamo di noi. Parliamo di noi. Scusi, però, tornando alla questione. Parliamo di noi, il vulnus vero è il signor Berlusconi, che indipendentemente dalla legge Severino è ancora seduto là con una condanna di Cassazione. Se vogliamo davvero però parlare. Lascio questo allora, Parenzo, se vogliamo è Parenzo militante. E parlare davvero di diritto. Però, senatrice Casellati, un attimo, la domanda è questa, perché lui ha fatto un'affermazione, così la sua opinione. La domanda è questa. Questa legge qua, scusi, lei l'ha votata, sì, no? Certo. Ma anche su questo ci no, ma lei l'ha votata o no? Ma certo che l'ha votata. Disinformazione. No, ma lascia disinformazione. Disinformazione. Perché ma disinformazione? Perché. La domanda è questa, l'ha votata sì o no? Sì, ma le spiego perché c'è, certo che l'ho votata. Perché c'è disinformazione. Perché, noi abbiamo votato una legge delega. Ma e no, la legge ma basta delega con questa mica storia. Si parlava di retroattività non retroattività. No, però è una furbata, è una furbata questa sua. No, basta saperne di diritto. Allora c'è una legge delega, dopo la legge delega ci sono i decreti legislativi. I decreti legislativi le fa il governo, il Parlamento. Ma non c'entra questo. Non avete mai sollevato, non avete mai sollevato mezzo problema che riguarda o mezzo dubbio che riguarda la costituzionalità di questa legge? Perché noi riteniamo, non l'abbiamo sollevato perché noi riteniamo che la legge penale non possa essere retroattiva. Ma nessuno l'ha detto all'epoca. Per forza che non l'abbiamo sollevato, l'abbiamo dato per scontato che non sia retroattiva. E ci mancherebbe altro di fronte alla Costituzione, di fronte alle preleggi. L'abbiamo dato per, e nel momento in cui si pone in dubbio questo, che noi diciamo se è così e allora è incostituzionale. Però, scusi, da prima Casella, non avevamo motivo. Ma per ci sono 40.000 40.000 casi nel 40.000 quali? No, cioè no, ma ci sono una trentina di casi per cui è stata applicata, non in Parlamento. No, non in Parlamento. C'è qualcuno che dà i numeri su questo. No, ma non è vero, ma non ma è vero no. così. Non è vero, perché non in Parlamento, caso. Non in Parlamento. No. Scusi. Permetta, è il primo caso che si discute in giunta di questioni relative alla decadenza per applicazione della legge Severino. Un altro caso. Ma è quello che ho detto io, non in Parlamento. Non in Parlamento, ho detto. Scusi. Fuori dal Parlamento. Parlamento. Non in Parlamento, ci sono altri casi. Senatrice, non è mai stato sollevato. Ma tecnicalità. No, ma non è il fatto è il primo è caso che voi avete votato quella legge pensando che fosse buona. Prima, ma poi certamente do... l'abbiamo la legge anticorruzione, siamo stati noi a proporla. Volevate le liste pulite, appunto. Adesso come si fanno a fare le liste pulite? Stabilire dei principi di legalità. Ma lasci porta stare la firma al fan. Ma signora mia, al di là, senatrice, ci conosciamo da tantissimi anni, al di là della condanna di Berlusconi in Cassazione, al di là della legge Severino. Al di là di quello che si parla. Adesso arrivo. Berlusconi condannato in Cassazione. Siamo già passati al di là. C'è la legge Severino. È sempre il diritto canonico, una proiezione. Ma non l'alto. È canonico, c'è la legge Severino che dice che una persona condannata su... ora è loro dicono che non si può applicare, ma è opportuno o no che uno candidato condannato si ricandidi? Questa è la questione, perché se no, non travolgiamo. Allora, noi sappiamo benissimo che c'è la decadenza, poi ci sarà l'interdizione, quindi la questione riguarda Berlusconi, ma riguarda il caso di applicazione di questa legge, che costituirà un precedente. Scusi, voi l'avete approvata prima delle elezioni del 2000 di quest'anno, certo, in fretta e furia, perché era chiaramente applicabile, perché era chiaramente applicabile a quelli eletti. Ma quindi anche Fiorito si può ricandidare allora? Come? Fiorito? Il signor Fiorito? Si può ricandidare teoricamente, stando a quanto lei mi dice? No, sulla ricandidatura ci potrebbe essere ancora il problema della retroattività della legge, perché la legge... Cioè, no, ma scusi, Berlusconi... Però, ma perché la mettete sul piano del diritto? Quando è chiaro, parliamo di sanzioni della decadenza, parliamo di una sanzione penale. Questo significa che quando uno commette un fatto penalmente rilevabile... O rilevante, deve sapere quello che esattamente a quali, ma non c'entra niente, sono due cose quali diverse. Condanne va incontro. Questo è il principio di civiltà giuridica. Vabbè. Senta, devo però sapere... adesso il problema è molto semplice. Quando voi avete approvato questa legge alla fine dell'anno scorso, era chiaro che si applicava anche e soprattutto a quelli che sarebbero stati eletti nella legislatura. Ma come così. No? Era evidente, era chiaro, perché avete brandito la questione delle liste pulite e sulla base del fatto che avete brandito la questione delle liste pulite, alcuni sono stati anche esclusi dalle liste. Per cui era chiaro che si applicava agli eletti in corso. Adesso, siccome si parla di Berlusconi, voi però dovete arrivare alla fine di questo ragionamento dicendo: noi facciamo di tutto pur di salvare Berlusconi, come alla guerra. Siccome così. I magistrati hanno fatto la guerra a Berlusconi, anche noi facciamo con i ricorsi alla Corte di Lussemburgo, alla Corte di Strasburgo, qualsiasi cosa pur di salvare Berlusconi. Ma è legittimo, però è così. Se la questione è così pacifica, perché illustri costituzionalisti, non sono io, Elisabetta, ma in Italia tutto si può dire, dai. Membro della giunta appartenente al PDL, illustri costituzionalisti che certamente non hanno simpatie per il centrodestra, si sono pronunciati. Guardi, e hanno detto che sarebbe stato utile. In Italia si trova un costituzionalista, non si trova certo salvare Silvio Berlusconi, alcuni volevano sì, fare altri un'operazione in punto di diritto. Alcuni qua. Guardi, signora Casellati, in Italia si trova sempre un giurista per qualsiasi cosa. L'Italia è il paese dei giuristi, delle mille interpretazioni e dei mille cavilli. Non l'abbiamo cercato noi, Violante non certamente ma non guarda che secondo noi a prenderlo per la giacchetta. Vabbè, no? Ma in Italia tutto è possibile, purtroppo tutte le interpretazioni sono possibili. La questione è politica, il paese del Consiglio di Stato. Le interpretazioni sono possibili tranne la nostra? Lei sta dicendo questo? Ma sono tutte possibili tranne la nostra? Ma no, ma anzi, ma è una questione politica, non di diritto, se la vede. Allora, allora giro cambiare la domanda. Allora non siamo più in uno stato di diritto, vuol dire che dobbiamo processare le persone in ma una allora piazza, allora sullo, diciamo solo sull'opportunità. È opportuno che Fiorito si ricandidi? Ma lasci stare Fiorito, io la sua storia. Perché Fiorito è stato condannato. Mi faccia il piacere, Fiorito, non lo possiamo paragonare a Silvio Berlusconi. Ah, credo, allora perché è Berlusconi? Ecco, appunto. No, ma non lo sto dicendo per il fatto delle questioni penali. Cioè un candidato definitivo, un candidato, mettiamo un condannato... Della sua storia personale, non so neanche adesso se è stato condannato o non condannato. Ha patteggiato, credo. Patteggiato, ma insomma... Non entro nel merito delle questioni di Fiorito che non le ho... Comunque la cosa più incredibile è che l'avete votata voi questa legge. La cosa che non conosco. Abbiamo votato una legge anticorruzione. La questione è soltanto di capire se questa legge è applicabile ad un caso, come il caso di Silvio Berlusconi. Senta, se fosse chiamato Pinco Palla, la questione non sarebbe stata quella che è stata sollevata anche tutti non i giorni dappertutto. Anche perché non l'avreste sollevata voi se fosse stato Pinco Palla. Assolutamente. Noi il ragionamento lo facciamo in punto di diritto. Sì, e le ripeto, non sono io. No, però uno non deve essere... PDL. Scusi. Violante, dice... lo chieda Violante. Perché sì, ma lo chieda ma sarebbe Violante. Più onesto dire noi facciamo andiamo avanti perché è un processo politico. Esatto. Questo sarebbe un'operazione straordinaria e di trasparenza. E ancora un'altra cosa. No, ma è ma questo. L'unica. Noi ma ci attacchiamo a qualsiasi cosa e ci attacchiamo a qualsiasi tipo di ricorso perché secondo noi quella roba lì è un processo lui staliniano. È un perseguitato, è come Nelson Mandela, è il nostro Mandela e quindi non deve andare in galera. Questo va detto. Lei che pensa che sia un perseguitato? Guardi, allora sono due piani, non ma come due piani, sono l'unico piano. Il primo è che noi riteniamo che questa sentenza sia ingiusta. Vabbè, d'accordo. E questo è un discorso, ma del resto voglio dire, la Boccassini di recente ha fatto delle affermazioni molto gravi. Che ha ragione la Boccassini? Non sono state riprese dai giornali. No, come no? Oggi dappertutto. Sono state riprese con quattro righe. Un'affermazione come quella della Boccassini, dove si dice ci sono dei che i PM che fanno politica, che fanno politica avrebbero dovuto... E viste le discussioni di questi tempi, vista la tripartizione dei poteri, e visto ma a me che pare assurdo questo... che l'abbia fatta adesso no, questa affermazione. Forse questo era anche un'autocritica, sperabilmente, perché la Boccassini non è esempio. Non si riferiva a se stessa, mi pare che non piani, si riferisse piani, a se stessa. Ognuno non si riferisce mai a se stesso, ma forse poteva anche riferirsi a se stessa. Comunque mi hanno scritto adesso un messaggio, l'avvocato Cianfrone mi ha scritto un messaggio, mi ha detto di alla senatrice Casellati, ma quale piani e piani? Ma di che stiamo parlando qui, il piano è politico, difendete Berlusconi, questo sta dicendo. Ma va bene, uno basta ma dovete dirlo, ha ragione l'avvocato Cianfrone. No, scusi. Ma chi è sta, allora, se noi riteniamo che la condanna di Berlusconi una condanna politica è un dato di fatto. Ah, cioè i giudici l'hanno condannato, i giudici non applicabile in punto di diritto è un'altra questione. Ma che altro fatto? Sì, ma non avreste mai sollevato questa cosa, non ci fosse stata Berlusconi. Ma non l'abbiamo sollevato perché non era possibile farlo. Sì, non era possibile farlo. La irretroattività è un principio che non basta questa. Io veramente divento pazzo di fronte a questa cosa, perché io sono anche pronto a dire che Berlusconi è stato perseguitato da alcuni magistrati, però di fronte al fatto che uno dica però a un certo punto c'è la Severino che è quello, l'avete votata voi e non avete mai posto la questione di incostituzionalità, senatrice Casella, ma non l'avete posta perché ve ne fottevate la questione della irretroattività, è un principio di civiltà, ve ne fottevate all'epoca, ve ne fottevate io lo dico in posta nel momento, le questioni di costituzionalità non si pongono nel momento in cui si fa una legge ma e nel momento infatti si sollevano in giudizio in cui uno ritiene che ma per altri casi non l'avete profili nell'applicazione costituzionale. Senta, non senatrice Casellati, ma la frode fiscale è una questione tecnico giuridica, non è una questione, non c'è nessuna questione tecnica, è solo una questione politica. Scusi, no, secondo me è una questione, secondo lei è una questione politica, tecnica la condanna e tecnica l'applicazione della legge. Vabbè, Beh, che senta, non vorrei fosse, che è stata tramutata sì. da parte del Partito Democratico 5 Stelle, ma quello è un altro discorso, in una questione solo esplicitamente ognuno politica. Fa il suo ognuno fa il suo gioco che è solo politico, basta con questa cosa tecnica, lo fate voi e lo fanno allora loro. Noi come giunta siamo delegittimati perché all'indomani della condanna di Silvio Berlusconi hanno detto decade. Allora ma che certo ho letto fare, ma che devono dire, scusi, che devono dire, no vediamo, forse che devono fare, no forse vediamo, vediamo le carte, no, ma scusi. E allora ripeto, è una questione che era già stata decisa. Vabbè. Io che cosa ho passato a fare un esame? Ma lei va in mezzo alla gente? 500 carte, qualcuno me lo spiegherà. Beh, perché io infatti non capisco perché come lei ha, dice, ha passato il tempo a leggere sulle carte quando è evidente che la decisione è politica e comunque lei non voterà mai. Mi hanno mandato dalla giunta, che ci stiamo a fare? Scusi, se la dice Casellati, mi dica la verità, lei non voterà mai, cioè, lei non voterà mai. Il mio ruolo. No, ma certo, lei ha fatto bene a leggere. Lei ha fatto bene a leggere le carte, ma lei non, comunque, anche se dovesse leggere migliaia di carte, non voterà mai per la decadenza di Berlusconi. Certo. Lo può dire o no? Io non voterò mai. Ma lo dico in maniera ragionata. Ma non lo dice ragionata, lo dice perché Berlusconi è il suo leader politico. Se lei vuole continuare a dire così, io dico. Ma perché è il suo leader politico? Pazienza, ognuno la pensa come vuole. Ma è il suo leader politico? È più onesto dire il mio leader politico e voglio che rimanga al Senato. Ma lezioni di onestà e di ma no, ma onestà e disonestà. Ma no, non onestà. Io sto facendo un ragionamento giuridico e le dico che, pur essendo il mio leader, in base al ragionamento giuridico, se lei non nelle può carte decadere. Vabbè, ma ognuno fa i ragionamenti che, secondo me, in questo caso vale di più il fatto che il leader politico. Senza, ma la frode fiscale è grave, secondo lei, come reato? È certamente grave se ci fosse stata. Perché lei ha letto l'articolo di Ostellino? Sì, ma Ostellino non è che il giudice ha fatto un ragionamento che per la prima, credo che Ostellino non è che abbia simpatie per noi ancora una volta. Beh, un po' sì. Beh, è un liberale, ma insomma, recente, Ostellino ha scritto un articolo sul Corriere della Sera. E che ha scritto? Dove dice: per la prima volta è stato condannato una persona che non ha commesso un reato, non per il fatto di aver commesso un reato, ma soltanto forse, per il fatto di aver così pensato che potesse qualcosa succedere di questo tipo. Ma secondo lei la frode fiscale è grave o no? Questa è la domanda, è un reato grave? Ma guardi, lei fa delle domande, allora io le dico, la frode fiscale è semplice, è grave. Un reato grave e secondo me, la perché io le ho lette le sentenze, e il non c'è prova da nessuna parte che questo reato sia stato commesso. Allora il giudice, allora è un complotto di tre tribunali, Esposito Tizio Caio Sembroni, l'abbiamo sentito. Com'è che fa Esposito, che questo è divertente? Perché voglio dire, non è che era uno qualsiasi che passava per la strada. Sì, ma come fa Esposito? Ha detto esattamente, perché l'ho ritrovato. Tizio Caio Sembroni. Il settembre, che per la prima volta qualcuno è stato condannato per essere l'ideatore, tra virgolette, mi dica come fa Esposito, non colui che ha commesso un reato. Mi dica come fa Esposito. Mi dica come fa Esposito. Mi dica come fa Esposito, che è divertente. No, lasci stare, perché lo chieda a lui, che lo fa meglio, essendo io veneta e non napoletana. Oh, c'è una bomba lanciata da Dago Spia qualche minuto fa mentre eravamo al telefono con la senatrice Casellati. Su Crozza, lei dice? Sì, su Crozza, cioè. Anche Crozza, secondo Dago Spia, molla la 7 di Cairo, perché avrebbe già firmato con la RAI. Vabbè, alla gente che sta magari sui camion, può interessare. Non frega un cazzo, magari. Notizie di mercato giornalistico televisivo. Ma non è giornalistico questo. Del mercato televisivo. Televisivo notizie, è importante. Notizie di mercato. Le bombe di Cruciani ad Dago Spia. No, è la bomba di Dago Spia. Bomba di Dago Spia. La bomba, ma non è come la bomba di Mosca. Vabbè, però, dopodiché, per chi è in macchina e dopo una giornata di lavoro sta tornando a casa alle 8 di sera, dice sì, vabbè, d'accordo. D'accordo, vedrò Crozza forse sulla RAI, però chi se ne frega. Interessantissima, però. Vedrò la fine. Forse sapere se c'è differenza tra Fiorito e Berlusconi nella candidatura vista legge Severino, forse questo interessa ma un ciccinino di più. Ma forse. Sentiamo il signor Forchielli, il mitico signor Forchielli, sai, no? Mitico, ormai è diventato un polemista. Credo che abbia un altro mestiere nella sua vita, credo, no? Si occupa di imprenditoria, di investimenti. O Forchielli, questa mattina da Milan. Senti un attimo questa roba qua di Forchielli. Renzi su Renzi. Renzi è più viscido di un'anguilla dentro un preservativo. Certo, hanno, gli altri hanno lasciato cadere la famosa saponetta e sniacchi. Renzi è più viscido di un'anguilla dentro un preservativo. Ma cioè, questa è la metafora di Forchielli. Ma chi è Sor Forchielli? No, vuole dire una cosa molto semplice, Sor Forchielli. Ma chi è Forchielli? Oh, che palle, chi è Forchielli? Forchielli è un polemista, io lo chiamo ormai un polemista. In realtà fa tutt'altro nella vita, si occupa di economia, di investimenti in Cina. Forchielli su Google. Sì, Forchielli. Alberto Forchielli, credo. Forchielli. Comunque, il fatto è questo, che Renzi, ormai, ti dico la verità, mi comincia a stare sulle palle. È passato dall'esaltazione di Marchionne a Bendola. Dall'esaltazione di Marchionne alla sinistra. Sì. Sì, è un imprenditore. Brava persona, mi pare. Ma sì, è bravissima persona, come no? Certo. Andiamo con Antonio da Padova. Bravo Forchielli. Ciao. Dica. Pronto, mi senti? Sì, vada. Ciao, Giuliani, buonasera a tutti. Vai, vai, vai. Volevo sapere oggi R2 delle 12:30. Arrestata Lorenzetti. Presidente della regione, ex presidente della regione Umbria. Sì, per la questione TAB, eccetera, sì. Vabbè, allora? Sì. Però che era del PD non lo sono dovuto andare a cercare. Ma no, ma chi l'ha detto? Rai 3? No, GR2 delle 12:30. Vabbè, GR, ma chi se ne frega del GR2? Ma no, anche chi se ne frega? Cioè, ma non... l'informazione sera del PD l'avrebbero detto con i megafoni anche per le strade. Ma è una innanzitutto è la ex governatrice della regione Umbria, ex governatrice. Va benissimo, non ha questo grado. Presidente di una società di diritto pubblico. Assolutamente sì, sì. No, dopodiché io siccome è stata arrestata, e siamo nelle fasi preliminari, come non mi accanisco sugli altri, non mi accanisco nemmeno sulla signora Lorenzin, con Lorenzetti, come diavolo si chiama, Lorenzin è il ministro. Per cui che cosa vuole che le dica, Antonio? Non mi pare che non venga data risalto a questa cosa. Sto vedendo adesso sui siti dappertutto. Si parla della vicenda della. Io parlo del GR2, quello che. Vabbè, ho capito, ma perché lei si concentra sul GR2? Ma chi se ne frega? Il GR2 è poi la sera ascolto volentieri voi, adesso non lo so. Se ma questo la ringraziamo. Questo la ringraziamo. L'abbraccio. Arrestata per corruzione l'ex governatrice Umbra Lorenzetti del Partito Democratico. Vuole che lo diciamo con più forza? Un dirigente anche del Partito Comunista Italiano. È del Partito Democratico. È stata arrestata l'ex governatrice Umbra. Bisogna dirlo anche quando sono dell'altro schieramento. Ma noi lo diciamo sempre, Antonio. Il GR2, non so perché non l'abbia detto, non è importante. Lei si è concentrato giustamente sul GR2 perché ascoltava il GR2 e poi la sera la zanzara, cosa buona e giusta, ha fatto il signor Antonio da Padova. Grazie. Andrea da Como, PD e PD, Lorenzetti PD. Sì. Se vuole glielo diciamo. Sì, buonasera. Vada Andrea, dica. Buonasera. Guardi, io adesso tra poco arrivo a casa, guardo il TG5 e so già che mi verrà da vomitare, perché c'è un battage pubblicitario sui canali Mediaset per il referendum dei radicali. Sì. E meno male. Si sono svegliati. No, ma per carità, hanno anche ragione, cioè un problema giustizia in Italia c'è. Il problema No, ma ha ragione l'ascoltatore, Cioè, a me perché? Fa vergognare che il PDL sia pagato dagli italiani, messo lì dagli italiani e passi il tempo a lavorare per andare in giro a fare il gazebo per salvare Berlusconi. Vabbè, cioè, adesso questo mi fa vergognare. No, a me non mi fa vergognare nulla, Andrea. Io è chiaro il motivo per cui adesso il PDL si concentra e c'è grande attenzione nei confronti del referendum dei radicali. Ho capito. Ma Cruciani, ma ci rendiamo conto che l'Italia, il governo del diciamo la salvezza d'Italia dipende tutto dal fatto se Berlusconi va a fare i domiciliari o no, cioè se ma va in galera, ma non no. È così, dipende tutto da questo, cioè, ma che paese così. Siamo? È paese dai di Pulcinella, siamo dei cioccolatai, ma dove vogliamo andare? Siamo nel G8. E allora? Ma perché la parola cioccolatai è sinonimo di... Ma perché? Non lo vedo, siamo un paese di cioccolato. Perché il cioccolataio? Nord, devi sapere che al nord. Lo sono del nord. Si dice, si dice sì, sei un cioccolataio, come per dire che sei un poveraccio. Ma come? Cioccolataio è un grande mestiere. Perché? Sbagliato. No, lo so, al nord, sono del dice, nord. Ma sono del nord anch'io. Sì, però in Lombardia in particolare si dice. Io l'ho sentito solo in Lombardia. Sei un cioccolataio. Ma perché bisogna come pensare per un cioccolataio? Perché è una cosa che si... Cioè sei uno... Come si può dire, Andrea? Degli umarella, non so come c'è dei cazzari, dei cioccolatai, sì, dei poveretti, dei... Ma perché poco uno che vende cioccolata è ma no, un cioccolataio po' è come sì, perché sei non lo so, perché si scioglie, perché sei inconsistente, non lo so qual è l'origine, comunque si può vedere, sicuramente ci sarà. Vabbè, Andrea, ho capito, molto chiaro. Nicola da Pescara, buonasera. Ciao Cruciani, buonasera a te, buonasera a Parenzo. Ho una curiosità, una cosa della quale non ho avuto più notizia. Forse Parenzo, che è preparato su tutto, probabilmente anche su questo mi potrà rispondere. Ma che fine hanno fatto due inchieste famose sulla parte sinistra dell'Italia, ovviamente dal punto di vista politico? Telecom Serbia e le cooperative rosse. Non ne ho più sentito parlare. Ne sapete qualcosa? Ma non lo so, Nicola, non me ne frega nulla. Ma siete due giornalisti, come no? Dovreste sapere. Ma tutto chiuso perché non c'era Telecom. Non è che faccio tuttologo. No, ma ecco, no, sono due inchieste famose. Oh, attenzione, signori, non stiamo parlando mica di stupidaggini, che sono state probabilmente o nascoste o insabbiate. Vabbè, uno come allora Parenzo, uno come avanti. Parenzo mi deve andiamo dire avanti. No, come andiamo avanti? Perché non rispondete su queste cose? Non potete, non avete rotto le palle con Berlusconi, parlate solo di questa inchiesa del cazzo che fa ridere, che è una condanna politica, anche un bambino se ne accorge. Parlate Telecom anche un po' degli altri. Guardi che Telecom possiamo Serbia, Telecom Serbia. Sul fatto che la condanna, io non dico condanna politica, sul fatto che ci siano dei magistrati che appena vedono passare davanti qualcosa che interessa a Berlusconi si mettano lì di punta e cerchino in tutti i modi di condannarlo, di incriminarlo, sono d'accordo con lei. Dopodiché è alla guerra come alla guerra. In questa guerra a un certo punto c'è un magistrato che si chiama il signor De Pasquale, che è riuscita a inchiodare Berlusconi. È una guerra, una battaglia. Cioè, lei mi dice non è giusto che i magistrati facciano la guerra, una battaglia, ma lo dice pure la Boccassini adesso. Pietro, provincia di Roma. Comunque Telecom Serbia è stata archiviata nel 2005. Vabbè, lascia perdere, dai. Pietro, provincia di Roma. Pronto? Dica. Pronto? Sono in trasmissione? Non lo so, veda lei. Veda lei. Dove vuole essere? Dove vuole essere? Al cesso? Stasera. Come, scusi? No. Guardi, abbia pazienza, ci sente o non ci sente? Non ho tempo da perdere. Adesso. Oh. Sì, ma deve chiudere la radio. Lo so, però non mi ritorna sul telefono. Vabbè. Mario da Genova. Uno chiama e non si mette d'accordo con se stesso. Mario, dica. Pronto? Sì, pronto. Ecco, senta, Madre Teresa di Calcutta, intervistata da un giornalista che la chiamava Santa. Sì. Rispose che anche lei era una peccatrice come tutti. Ma questo non c'è dubbio, siamo tutti peccatori. Questo qui, ma questo serve siamo per tutti che cosa? Peccatori, non c'è dubbio. Questo serve per dire che cosa? Ma non sopporto coloro che fanno la morale e chiamano delinquenti chi non paga le tasse. Per me delinquente sono coloro che aggrediscono, rapinano, violentano e fisicamente fanno del male alle persone. Sì, vabbè, c'è differenza, certo, tra la violenza privata e la frode, ma non c'è dubbio. In galera. Che c'è? Vabbè, ho capito, ma in America vanno in galera pure i bancarottieri, per esempio. Beh, è da rivedere qui in Italia. Chi fa la cresta sulle tasse bisogna dargli una multa forte. Diciamo ma che non la galera chiamarlo delinquente, perché tutti... Arriva tutti, lui. Chi è che non ha fatto il secondo lavoro e non l'ha denunciato? Chi è che non va a puttane? Beh, adesso insomma, qualcuno c'è. Per fortuna Mario, non ci vado, Mario, però, scusi, dire... Mario, scusi. Ma tutti qua ci va lei! Ma non si permetta minimamente, ma ci andrà lei! Ma ci andrà lei! Lei è andato a puttane, Mario? Ma sicuro che sì, ci va. Sono andato. E va ancora a puttane? Ancora, bravo. Dove va a puttane? No, Mario, mi interessa questa cosa. Ci andrà lui, sto spaccaccione qui. Sono molto interessato a questa cosa qua. Lei, Mario, nonostante l'età, perché quanti anni ha? Tanti. Beh, non mi dica. Quanti anni ha? No, guardi, non posso dirlo perché c'è mia moglie che mi ascolta. Appunto, ma questo è interessante. Vabbè, scusi, non Mario. Non me lo faccia dire. Ma dove va a puttane lei? Dire. A Genova? Comunque ancora io funziono, molto ma a Genova va a puttane? Senta, le dico Mario, ma lei va a puttane dove va? A Genova oppure in trasferta deve andare? Vado a puttane quando ne ho voglia, una volta alla settimana almeno ci vado. Ma lei è il numero uno, l'abbraccio fortissimo, ma dove va? Ma è brutto però. Ma perché è brutto? Scusa, dai, non ho capito. Ma perché è brutto? Ma fa benissimo, ma signor Mario. Ma poi dice tutti vanno a buttare, ci va lui, ci va, io non ci va, lui ci va. Lasciamo perdere questo. Ma no, lasciamo perdere una cosa fondamentale. Lasciamo perdere niente. E l'evasione fiscale va bene, andare a buttare, tutti vanno a buttare, tutti hanno il terzo e quarto lavoro. Ma di che parla? Ma non è, l'Italia non è così, comunque a puttane ci va un sacco di gente, compreso Mario, che adesso mi dice esattamente l'ultima volta che è andato a puttane. Quando c'è andato l'ultima volta? Sporcaccione, dai. Quando è andato l'ultima? Io le dico una cosa. Quando io è andato l'ultima volta? E se fossi arbitro e dovessi arbitrare Genoa-Juventus, siccome sono un peccatore di parte, farei vincere il Genoa 5-0. Come è successo per un certo processo che non mi faccia dire quale. Ma lei quando è andata a puttane l'ultima volta? Ieri. Ieri, ma sua moglie che dice che le va a puttane, scusi? Come? Che sua moglie che dice che lei va a puttane? Non lo devo dire. Non è che vada a puttane, c'ho una di 34 anni. Ma no, ma lei è il numero sì, uno, 34 Mario. 34 anni, un piccolo regalo ogni tanto. E come mi calcola? Ma scusi, quanti soldi... come mi calcola? Perché quanti soldi la vedo molla? Che gode al 100%. Ma di che cosa parla sto sporcaccione? Ma fa benissimo. Vittorio, abbraccia questo ma signore. Vittorio! Eccolo, sì, abbraccia. Va bene, ti saluto. No, Mario, scusi, quanti soldi dà questa di 34 anni? Ma dai, ma che squallore. Mario? Mario? Ma che squallore. Abbassato, Vittorio? Cosa stava dicendovi? Beh, stava dicendo una cosa meraigliosa. Stava che andava a prostitute, no, che tutti fanno evasione fiscale. Sta dicendo che tutti siamo peccatori. Che tutti... sia una buona ragione per scandalizzarsi di alcunché, insomma. Ma mondo... sì, ma è Parenzo che si ma stava no, scandalizzando. Ma no, mi scandalizzo, però mi dispiace anche di questi valori, sta gente. Comunque, ma perché andare a puttane? Ma non capisco perché... Ma no, ma questo che dice tutti vanno a puttane, ma ci va lui a puttane. Io non ci vado, francamente, ci va lui. Comunque. Ci andava anche Pasolini, ti vorrei ripetere. Ancora no? Pasolini, ogni volta ci sembra Pasolini. E anche Pasolini l'ha fatto. E coi bambini, pure Pasolini ci andava. Con gli animali, pure Pasolini andava con gli animali. Ma ci manco, sempre con il sofisticato. Sempre Pasolini, ogni volta, ogni evasione fiscale l'ha fatta anche Pasolini. Cioè, non è vero che l'ha fatta Pasolini. Però è vero che metti sempre in mezzo sempre Pasolini. Pasolini. No, e con i bambini. Pasolini ci andava. Perché voglio stimolare l'attività intellettuale del deficiente. Cioè, se uno come Pasolini è rispettato, vuol dire che nessuno ha dato peso al fatto che andasse a ragazzi minorenni. Oddio. Quindi quindi basta, rispettiamo le persone. L'attività sessuale è materia in cui io non vorrei sapere come scopa Parenzo. Ma sarei perché... preoccupato di vedere le sue inevitabili perversioni. Non so. Sì. E so benissimo che il sesso non può avere alcun vincolo, tantomeno pagato. Beldesur l'avete visto? Voi non siete mazza. Conoscete Buñuel? L'avete ma visto? Buñuel, ma Buñuel lo conosco benissimo, Bella di giorno, tutti i film di Buñuel ho visto. Io il fascio di scritto della borghesia, allora, so no, tutto. Ma... Beldesur è una storia precisa. Allora, la prostituzione non è una ma cosa che c'entra? Ma Bella di giorno è una roba sofisticatissima. Ma che c'entra? Ma Bella di giorno è una storia sofisticatissima con una splendida. Sì, una... il concetto fondamentale è che la prostituzione è un dato dell'esistenza degli uomini su cui tu non devi entrare. Fatti i cazzi tuoi. Fatti i cazzi tuoi. Ho detto semplicemente che uno che chiama la radio e dice tutti vanno a puttane, ho messo una roba normale, mi sembra una cosa squallida e tra l'altro non vera. Ricordi il sottosegretario di Prodi, quello Sircana, che... Sircana, Sircana. Oh. Di quello stiamo parlando. Ma che c'entra? Che ha fatto? Ma basta. Ma che ha fatto? Sì. Te la ricordi Vladimir Lussuria? Che non è che andava a puttane, faceva la puttana. Ma la vuoi smettere di fare il moralista? Ma cosa lasciare c'entra? Che il mondo vada come vuole. Ma che faceva Sircana? Non possiamo sentire Radio 24 come la Radio Vaticana. Neanche il Papa ne dice più queste stronzate. Ma che faceva Sircana? Scusa, Vittorio. Sta dicendo una cosa non vera. Stupidaggine. Che faceva Sircana, l'uomo niente, di Prodi? Ha fatto niente. Cosa faceva chi? Sircana, l'uomo di Prodi, che faceva? Che non nulla me lo ricordo. Fatto. Guardava una prostituta nell'atteggiamento di chi potrebbe chiederle quanto vuole. Ma che ne sai tu? Travestito. Un trans. Ma la storia, ma non me ne frega niente, non è che lo dico a suo danno, perché non no, sono certo, certo. Lo dico certo. Come un dato della vita degli uomini, di cui voi sembrate, in particolare Parenzo, io no. Come se io no. L'attività sessuale fosse inquinata da chissà quale attività no, sessuale. No, tutt'altro. Però legata alla prostituzione, al mercimonio. No, ma questo è Parenzo. Lo è stata anche, ma in modo assolutamente normale e logico. Cioè, non è che ci sia nulla di bizzarro. Scusami. I casini nascono perché c'è un mercato. Vabbè, scusami, certo, Vittorio, questo. Ma l'ultima volta, io sono curioso di sapere, l'ultima volta che tu hai trombato, quando è stato? In questo momento lo sto facendo. No, dai, no, ma non è vero, non è vero, dai, non è in vero. In questo momento, sì, sono esattamente in questo momento con una signora che non pago, in un posto molto bello. Dove sei? Occhio che stiamo degenerando, Siamo qui, la Zanzara, 800 24 00 24, è con noi Vittorio Sgarbi, eccoci qui. Ecco. Ma allora Vittorio, che io voglio sapere una cosa, tu hai saputo di dove ti trovi innanzitutto? Canale sapere... 5 manda un'intervista alla Brambilla, sì. Perché vuole impedire lo svolgimento del Palio di Siena, cioè io non so, siamo veramente... Bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Vittorio su questo. Ah, che dice per la storia del Palio di Cuneo? Là, no, di Asti. No, pagli che siano di Asti, di Siena. Il tema degli animali e della loro integrità fisica è ovviamente un tema giusto. Ma sì, perché ma se fanno il palio è normale che possano morire i cavalli, no? Ma altrimenti ma che palio... Esattamente come fanno la Formula 1. Non dovrebbero farlo perché qualcuno può morire. Come fa certo. Uno a ragionare in questi termini, cioè avere un esponente politico che si occupa di bloccare il paglio perché si azzoppa il cavallo, ma io non lo so, ma siamo arrivati a un punto di pazzi. Ma questa qua è una nuova, sarà una nuova, la fondatrice della nuova Forza Italia? No, no, è sempre la Brambilla, ma è sempre la solita cosa che dice ogni volta viene fuori su questo argomento, perché capita che si azzoppi un cavallo durante la corsa di un paglio, e quindi questa ma che stai facendo a vedere Canale 5? Sei davvero in un letto con qualcuno? Allora, io sono in un letto a baldacchino di un luogo sublime che si chiama Castello di Limatola. Sì. E sono in queste stanze restaurate con un certo gusto, sì, con qualche dettaglio forse discutibile, e sono, sì, con una persona che sta al mio fianco e che... Ce la puoi passare? Come si chiama, scusa? Questa è la vostra preoccupazione di sapere delle cose che sono il puro pettegolezzo, è un'altra delle forme... No, pettegolezzo, per avere la... Semplicemente, la battuta l'ho fatta per dire che... Però un albergo a 5 stelle, L'attività sessuale delle persone è un fatto assolutamente normale. E chi paga qui, Vittorio? Comunque sia fatta sopra, sotto, altrimenti le garanzie che chiediamo per i gay non si vede che non dovrebbero avere quelli che vogliono andare a prostitute, non c'è nessuna differenza. E chi paga lì l'albergo? Chi paga l'albergo? Vuole sapere Parenzo, chi paga? Perché ecco, anche questo problema di chi paga i miei alberghi e non paga i miei alberghi è un problema che non riguarda Parenzo, perché quando Parenzo va a fare una cosa per la Rai si deve sapere tutto, una cosa per... qualcuno lo paga pur essendo lui una zucca vuota e una capra assoluta. Ma cosa c'è? Ecco, oppure lo pagano, c'è uno che non vale niente, che non merita niente, che non ha mai fatto niente di utile, non ha mai scritto niente se non un libro leghista per legare il culo alla Lega. Tre libri scritti, tutto inutili. Ecco, quindi voglio dire, lo stiamo parlando. Il problema di fondo, lui, Vittorio, scusa un attimo, però io vorrei. Ma dov'è il castello di Lima? È bello davvero. Io vorrei affrontare la... È un posto che mi segnalo, è bellissimo. La questione Amato vorrei affrontare. Ma cosa fare? Scriverò una lettera ad Amato, non per le ragioni che 420.000 euro che fanno un certo effetto, perché lui prende il doppio del Presidente della Repubblica che lo può nominare. Questo è uno dei dati inquietanti delle nostre... Cioè, cumula le pensioni alla nuova, ai soldi della... No, 420 è lo stipendio del giudice costituzionale. Il doppio del Presidente della Repubblica. Ma questo è un dato... Io gli scriverò per un'altra ragione, perché nessuno si è accorto, tema che mi pare l'unico su cui si potrebbe discutere sulla questione Berlusconi, che esiste una contraddizione profonda fra il rispetto delle sentenze che noi invochiamo e la sentenza, che non è soltanto un atto di sadismo di un tribunale verso un innocente, è un atto, è un rapporto a due con uno che ti guarda, ti giudica e uno che è giudicato. Qual è la sentenza che è toccata a Berlusconi? Di avere 4 anni con l'indulto, uno più 5, non potevano essere 5, ha detto la Cassazione, cioè il tribunale, che è quello che sancisce la sentenza, non possono essere più di 3. Ecco il punto, se io sono condannato all'interdizione a 3 anni con una condanna che la Cassazione stabilisce e stabilirà più avanti, o a 2 anni, come può la Severino darmene 6? Ecco che ho diritto come cittadino. L'unico punto è questo. La Severino prevede un'interdizione di 6 anni che è ultronea sul piano moralistico. Vabbè, alla questo è individuale. Però stai entrando. Ma non fare il te. Adesso non ti mettere a fare il leguleio lì. Ma anche Pasolini. Un altro. Non c'è dove parlare della Severino. La Severino è incostituzionale per questo, non perché è retroattiva. Ma guarda, ti voglio segnalare, ma come mai il PDL... La condanna individuale, se ti fanno una multa da 200 euro, nessuno ti può dire che ne devi pagare 600. Come mai, scusami, come mai tutti quelli del PDL... Abbiamo un Parlamento fatto di gente... Ma il PDL, che adesso la contesta, l'ha approvata in carrozza. Ma il punto non è questo. L'hanno approvato perché sono degli scemi, come hanno approvato per il settore minorile. Il problema non è che abbiano approvato, il problema è che chi io non l'ho fatta e approvata vuole ricorrere alla Corte, deve ricorrere alla Corte su un punto di palese contraddizione. Questa roba qua dici tu. La contraddizione è evidente, è che la mia condanna del mio tribunale, che io voglio rispettare, che Parenzo vuole si rispettino le sentenze, dice non più di 3. Fine. Io non posso avere più di 3. La Severino, che stanno applicando adesso, diventa una condanna doppia. Vabbè. Quindi non può essere. Scusami un attimo, ma a proposito di Amato, ma hai letto questa cosa che scrive il Fatto, di questa telefonata che lui nel 90 avrebbe fatto alla vedova di un dirigente socialista consigliandole di non parlare su altri dirigenti socialisti? Ma però non ti sembra... ho letto quella del tennis con Mussari, no? Del tennis, lì il tennis è una cosa clamorosa. Il problema di Amato è che Amato è stato l'uomo più vicino a Craxi, quindi... Però poi tradendolo, Poi tradendolo, pensando che doveva fare un'altra storia. È quello che potrebbe fare Alfano, cioè il rapporto che c'era fra Craxi e Amato è quello che c'è fra Berlusconi e Alfano, quindi saremo a vedere cosa capiterà. Comunque lì... Ma siccome io ho sentito parlare con la Casellatti, vorrei appunto richiamarvi al tema vero. Non è il tema di chi l'ha votata, è il tema del cittadino che si trova ad avere due tribunali di merito. Ma dai, ma mi vuoi spiegare, ma scusami, vuoi spiegarmi, visto che sei veramente molto intelligente, perché un bidello condannato non può avere il suo posto di bidello e un politico condannato lo dobbiamo avere in Parlamento? Ma mi vuoi spiegare Pasolini? E non tirarmi fuori Pasolini! Non tirarmi fuori Pasolini! Questo è un altro ragionamento ancora. Il problema è, tu puoi avere un insegnante che fa pompine ai suoi ragazzini, eppure l'hai avuto, che è Pasolini per la prima. Ecco, lo sapevo. Il tuo bidello vale come quello. Io dico un'altra cosa, non me ne frega niente di Berlusconi. Dico, tu dici rispettare le sentenze, io dico rispettare le sentenze. Tu dici è stato condannato a... La Cassazione ha detto 5 sono troppi. La Cassazione ha detto l'ultima parola. 5 sono troppi. Vabbè, rispetto a quello... Sei, la Severino è incostituzionale. Ma ho capito, ma la Severino dice 6 in generale. È molto semplice, non c'è, se non usano questa strada non vanno da nessuna parte, perché tu non puoi usare una strada che contraddice una legge che ti sei votato. Ma guarda, il punto è semplicemente politico, non è il punto è politico. Quello è l'altro punto, che puoi dire, è molto evidente anche quello, è talmente evidente che c'è uno che non può entrare in Parlamento perché è incompatibile per la legge del 54, che è Confalonieri. Come mai non hanno condannato Confalonieri? Che ma che c'entra Confalonieri? C'entra il principio che un bidello condannato non può fare concorsi pubblici, e invece un politico condannato lo dobbiamo vedere in Parlamento. Ma questa è la questione di fondo. Se ti piace così, però... La decisione della Severino non è senza limite, sto spiegandoti. L'elemento costituzionale che non dice che non potrai mai, dice che non potrai per 6 anni. La data e l'indicazione temporale è quella che cambia. Io non voglio dire se è giusto o se è sbagliato. Tu non puoi fare dei ragionamenti sul bidello. La tua retorica è tipica della tua mente malata, come la prostituzione. Ma quale mente la... Un bidello che ruba le matite a scuola non può, viene condannato, non può ritornare a fare nessun concorso e viene fottuto a vita, capito? Il bidello allora, condannato. Il dato è diverso. Quello che è interdetto lo è per 6 anni. Perché c'è qualcuno più uguale degli altri. Questo va bene, vogliamo parlare della Boccasini, che dice che i magistrati ogni tanto fanno le indagini per fare politica. È talmente evidente. Io sono andato in televisione con 2 buste in cui c'erano 10 nomi di persone che erano state con Rubi pagandola. Qualcuno mi ha interrogato? Qualcuno mi ha chiesto chi sono queste 10 persone? Ora, se c'è l'obbligatorietà dell'azione penale... Ma perché penale, se ne esce così adesso la Boccasini? Il bidello e non il bidello, la giustizia deve essere uguale per tutti. Quindi il bidello che va con una ragazzina di 16 anni pagandola deve essere condannata come Berlusconi. Non capita. Il bidello in questo caso è privilegiato, perché a nessuno importa un cazzo del bidello. Ma cosa se dici? Il bidello va con una minorenne, non c'è nessuno che va a seguire la sua azione prendendo la targa della sua macchina. Io invece ho fatto fare un'indagine e ho trovato 10 persone che ho fatto fare un'indagine, ma che adesso anche il tenente Colombo, Sgarbi, è diventato anche il tenente Colombo. No, è molto difficile, bastava leggere con attenzione le intercettazioni e ti rendevi conto di molti dati esterni precisi e di rapporti precisi di alberghi dove lei era andata. Nessuno ha voluto fare l'indagine sulla obbligatorietà dell'azione penale che non fosse per Berlusconi. Per cui da questo punto di vista la Boccasini dice una cosa molto giusta: lei ha fatto un falso processo e tu dovresti essere il primo a difendere Fede. Perché Fede non ha fatto assolutamente niente. No, nulla, anche secondo me niente. L'ultimo dei porci e l'ultimo dei delinquenti non vuol dire essere delinquente come lui. Non hanno mai arrestato la moglie di Rina. No, ma assolutamente. Fede è condannato solo per un motivo moralistico da tribunali che vogliono dare pene esemplari contro qualcuno, non in nome della giustizia. Va bene, Vittorio, ma dimmi un po', ma è vero che nella nuova Forza Italia non ci sarà spazio per Alfano, come dice la Santanchè? Ma speriamo. Speriamo. Solo che non avesse spazio neanche per Verdini, invece, quindi non è che uno è meglio dell'altro. Nuova Forza Italia sarà una tragedia. Ma ce l'hai pure senza Berlusconi. Dici che sarà una tragedia. Che ha la Forza Italia è di diventare un partito familiare con sua figlia, ma questo sarà una cosa che verrà fuori fra qualche tempo. Certo, non la bruciano adesso. Va bene. Ciao, chi è sta donna che sta accanto a te? Chi è che sta con soldi vostri? No, ma io pago sempre. Ma io non vado mai. Ma perché non mai, dici mai, che... mai, ma non è vero che non va. No, giuro, veramente. Ma non è vero che non sei mai andato a puttane. Mai andato, lo direi tranquillamente. Vittorio, sono fatto qualche canna. Lo credo, perché il problema fondamentale sarebbe trovare una puttana che paga lui. Saluto. Ciao, ciao. Non siete seri per niente. Marco Verona, buonasera. Buonasera. Buonasera, sono Tiziani, saluto lei e Parenzo. Non si sente, però alzi la voce, alzi la voce. Saluto lei e Parenzo. Sì, la... sì. Guardi, intervengo per la grande vigliaccata del senatore Borsi nei confronti di Flavio Tosi, che tra l'altro conosco da molti anni, che è anche assessore in Comune Verona. Ritengo questa grande infamia di Borsi, che non lo contesta a livello politico di quello che sta facendo il sindaco, ma si tende a cercare di mettere questa infamia, così si colpisce la persona, inventandosi poi tutto, perché, ma anche se fosse vero non credo ci fosse un problema. Ma non è così, cioè io ho girato il mondo con il sindaco, è una persona straordinaria, ma è spedita, ma non ha mai destato sospetti, ma neanche se ci fossero, non è così. Cioè, mi sembra che ormai in questo paese maschilista si voglia colpire una persona a livello politico infamandola in questo modo. Credo vabbè, che veramente... Marco, lei ci sta dicendo che non... ma lei conosce bene Tosi, qual è il punto? Ma non esiste questa cosa. Ma però la cosa che mi dà fastidio, uno dovrebbe scherzarci su questa cosa qua, non dire, prendersela come Tosi dicendo che Bossi è malato, dice vabbè allora sì sono omosessuale, qual è il problema? Uno ci doveva scherzare, non prenderla seriamente, l'uomo è malato eccetera, non è mica un'offesa. Ho dormito con il sindaco in alberghi e abbiamo girato il mondo, non si è mai assolutamente, ma anche se fosse stato, io non sono razzista sul nulla, ma sta scherzando, questa è essere veramente guardi, non esiste proprio una cosa del genere, ma però in questo paese maschilista troviamo noi, si vuole colpire la persona. Ma in che senso ci ha dormito col sindaco? Non ho capito. Ma nel senso, ma è girato il mondo, alberghi dappertutto, cioè il sindaco è una bella persona, abbiamo fatto vacanze insieme, ma non voglio dire, ma che bisogno c'è di dire? Non capisco. Questo è il motivo. Vabbè, un attimo, Vittorio, ci sei ancora? Ecco, sono qua, sì. Che volevi dire? Non ho capito. No, che è peggio essere malato che essere gay. Di Tosi non credo che si possa dire una cosa non vera, ma se fosse vera non sarebbe un'offesa in tempi di chienghe, di legge contro l'omofobia, e anzi forse lui l'antagonista di Renzi, essendo omosessuale potrebbe vincere le elezioni, sarebbe un elemento, ma non lo è, ma non lo è, poi. Ma non lo è. Non lo è, appunto, sì, non lo è. In compenso l'altro invece è malato, quindi alla fine dire malato a Bossi è ancora più sgradevole. Ma detto questo, volevo dire invece che mi piacerebbe immaginare, ribaltando i rapporti, qual è la cifra per cui cederebbe Parenzo. Cioè? Sono convinto che se una donna lo paga, lui ci sta. Cioè lui non è, lui è contro la prostituzione, ma non contro la propria. Lui è un prostituto naturale. Sì, questo se è vero. Qualcuno lo paga, ci sta. Beh sì, dipende, tutto hanno un prezzo. Venire a letto con me, gli dice una signora, sì? Io ti do 50 euro, lui ci sta. Beh, cioè lui è prostituto, lui è contro la prostituzione, ma è un prostituto attivo, cioè è disponibile a qualunque azione di prostituzione. Beh, cioè è contro, il suo problema non è la, lui non vuole pagare, lui non vuole essere cliente. Questo andrebbe valutato caso per caso, Vittorio, ovviamente. Però questo mi piaceva, cioè l'idea non lo esclude, lui non esclude di la prostituzione perché vuole risparmiare, ma se invece si ribalta la cosa e lui è il prostituto è favorevole. Questo andrebbe valutato, non lo so, io non mi andrebbe valutato caso per caso. Della prostituzione di Parenzo. Dai, se ti danno, se una ti vuole dare 500 euro ci stai, dai, su. 500, ma figuriamo. Dai, su, ma va, se una io ho una dignità a differenza vostra, cioè se una dignità... viene davanti a te e ti dice io ti do 500 euro per stare così non ci stai, ma dai, c'è su. Una dignità, c'è un'etica. Vittorio, tu ci stai o no? Vittorio, tu ci stai? Abbiamo aperto un contenzioso. No, non ho capito, se a te ti dicono 1000 euro per farmi una trombata, ci stai o no? Io? Sì. Io sono sempre stato del parere che sia meglio essere pagati. No, dico, ma se te ti dicono 1000 euro... Ma io assolutamente, cioè io, quando una ragazza se ne va dalla mia stanza e vuole lasciare un obolo, io sono felice. Ma che ti hanno mai... Però diciamo adesso, questa qua è seria, ti hanno mai pagato per fare sesso, sì? Sì, mi hanno pagato. Un corso radiofonico mi mise in vendita per una ragazza che voleva fare una cena con me e Tultra... A sì. 5 milioni e 200 mila lire all'epoca. L'ha fatto la radio, sì. Forse ma allora, perché non lanciamo un grande concorso? Vuoi fare l'amore con Vittorio? Quanto offri? Mettiamo, possiamo mettere all'asta Sgarbi? No, facciamo un tentativo, vediamo se è vero. Vediamo a che ora arriva. Chi si accontenta, Parenzo. No, allora, io metto fuori dal gioco. Teniamo fuori Parenzo. Allora, noi lanciamo questa, per adesso teniamo fuori Parenzo. La cosa è questa: quanto siete disposti a pagare voi donne che per ci una notte con Vittorio? Per una donna che però deve essere minimamente documentata. Non dico con però, no, documentata. All'epoca non c'erano magari i mezzi moderni per documentarla. Oggi si può documentare tutto. Allora, ovviamente si deve partire da una base, perché non è che qui stiamo, sì, stiamo a... Io partirei da una base d'asta di 2 euro. No, no, beh, base d'asta... 2 euro per te vale 2 euro. No, minimo, minimo deve essere... La base d'asta io la pongo a 1000 euro. No. Sì, sì. Ragazzi, ma di che stiamo a parlare? Amica, amica Vittorio è uno scalzacani. Ma chi è che paga 1000 euro per andare a Cosgarbi? Amica, non ruba galline, oh. Li hanno già pagati, coglione. Li hanno già pagati, benissimo. Ma il dai. Lo devo fare io. Ma totale dai. Autonomia. Ma dai. Allora, la cosa è questa. La deve essere una roba realistica. Partiamo da 50 euro. Su 100 euro base no, d'asta. No, no, la base. Ma ragazzi, ma non è che stiamo parlando di rubagalline qua. Cioè, la base. Poi non ci starebbe Uber meno di 1000, no? Giusto, Vittorio? Meno di 1000 è una follia, dai. Partiamo da 1000, dai. Meno di 1000 diventa poi abbastanza umiliante dopo. Ma sì, ma dai, la cosa è questa. 1000 euro la base d'asta. Una notte. Ma non trovi di sesso, nessuno, trovi. No, no, dai. Di sesso non diciamo. Una notte con Vittorio Sgarbi. Lui è disponibile a fare qualsiasi. Ma chi è che è il pazzo che paga 1000 euro, dai, su. Chi è? Ma tu vedrai adesso chi è. 1000 euro. 1000 euro per stare con Sgarbi. Vittorio, io lancio questa cosa. Domani vediamo, eh. Ciao, presto. Ciao, ciao, ciao, ciao. Walter da Roma, 1000 euro per stare con Sgarbi. Grande sondaggio lanciato. Che sondaggio? Grande reclutamento. Walter, tu. Che dici? Niente, riguardo io volevo parlare sulla retroattività della legge Severino. Oddio, cioè, mio, la retroattività della Severino. No, nel senso, no, no, una cortesia. Innanzitutto buonasera. E poi, niente, volevo capire se il ragionamento che potevo fare può essere quello giusto. Cioè, se sulla depenalizzazione del falso in bilancio, Berlusconi, la sua legge è stata applicata in modo retroattivo. Quindi cioè, non che capisco senso? Perché sulla legge Severino può essere applicata in modo retroattivo anche questa qua. Sì, sempre su Duca e Berlusconi. Io non ne posso più di questa cosa, la retroattività, la legittimità, la costituzionalità, eccetera, eccetera. No, è fatto... chiaro, è chiaro ed evidente che la legge Severino, ma uno dovrebbe affrontare la battaglia a viso aperto, non con queste robe da leguleo giuridici. La battaglia a viso aperto sarebbe questa: dire andate a fare in culo. Io considero dei giudici, io considero i giudici che mi hanno condannato politicizzati, e penso di essere un perseguitato. Penso di essere un perseguitato dalla giustizia. Io faccio, userò tutti i mezzi possibili per ribaltare questa situazione. È quello che già sta facendo, usare sì, tutti ma, i mezzi possibili. Sì, d'accordo, però... Nulla punto, novitas, ma diciamo. Il punto non è la retroattività, queste robe da secca garbugli, dai, su, ma è chiaro che la legge Severino è stata fatta per quelli che ci sono già in Parlamento adesso, dai, non per, che c'entra, certo che è per i reati commessi prima, è normale, non può essere per i reati commessi dopo, no, dai, su, e dai. Walter... O no? No, no, ma non, apposta, io non capisco perché non può essere applicata. Appunto. Deve essere applicata, no? Non c'è, vabbè, non c'è, Francesco non c'è... da Modena, ho capito. Francesco da Modena, dai. Sì, ciao, ciao. Io volevo dire solamente una cosa. Sinceramente, Parenzo, può pensare seriamente che la Chianci non fosse stata di colore anche dopo le ultime stronzate genitore 1, genitore 2, l'avrebbero messo come viceministro? Io volevo fare questa domanda a Parenzo. No, no, se non era nera certamente non poteva fare il ministro, ma questo lo dice pure Parenzo. Non ma credo è il suo... È il suo... punto di forza quello, cioè la cosa più bella è il fatto che noi abbiamo per fortuna siamo diventati un paese civile dai, e abbiamo dai, un ministro di colore, è la cosa più bella in assoluto. Allora si può dire benissimo che per fortuna abbiamo Berlusconi che paga non so quanti milioni di contribuenti, ma cosa vuol dire questa cosa? Ma dai, ma cosa stai dicendo? Uno viene messo su in una determinata postazione perché ha un valore, perché diciamo che rappresenta... No, lui dice, Parenzo dice, è stata messa lì in quanto, dico, in quanto beh, porta donna anche un di valore colore, aggiunto in più. Ed è un simbolo, per me questa roba qui è, c'ha un valore simbolo. Aggiunto. È un simbolo che deve essere gratuito, non che io devo pagare una persona. Ma che c'entra, questo? No, questo è vero però, perché sarebbe poi, comunque no, non è vero che ci sarebbe. Perché la questione dell'immigrazione, la questione è talmente importante. No, ma chi l'ha detto? Ma non c'è bisogno del Ministero per l'Integrazione. C'è anche in Francia, c'è anche in Francia. Ma chi se ne frega? Nei paesi civili c'è, perché si affronta in modo propositivo il tema dell'integrazione. Deve essere una figura gratuita. Ma lavora, è un ministro, no? Ma cosa dici? Settore 2? Ma sarà più utile avere un sarà più utile avere un ministro per l'integrazione che non un ministro per l'attuazione del programma. Vabbè, di governo. Su, dai, sì, sono temi che sono... Sì, che meritano attenzione. Se continuiamo in questa direzione qua, secondo me, è tipo un ragazzo di 30 anni, il paese va naturalmente a puttane. Ma... da una parte situazioni come Berlusconi che non insegnano di certo rispetto a... Ma come si fa a non capire che è un simbolo positivo anche per tutti quegli immigrati che sono appena arrivati qui, vedere che c'è una donna di colore al governo? Come si fa a non capirlo? Giovanna da Monza, fermi tutti, Giovanna, dica. Da Desio, provincia di Monza Brianza. Dica. Generalmente mi occupo di cose serie, ma stasera no, dato che c'era l'asta. L'asta per Sgarbi, sì, 1000 euro si parte. No, ma io partivo da per Cruciani. No, io non sono fuori, io sono quanto fuori offrirebbe lei per una notte con Cruciani? Una notte con Cruciani. Premetto che sono al verde, però se li avessi... Che stavo a parlare? Però se li avessi... No, vabbè, Giovanna. Quanto? Ma non si 2000. Fanno le ipotesi, se uno li caccia sul serio, a parte che io non sono in questa... non faccio parte di questo gioco. Il che gioco è... No, no, il gioco è questo. Beh, il gioco non è troppo gioco. Anche la cosa è questa. Si parte da un'asta, una notte con Sgarbi, di 1000 euro. Secondo me è troppo, 1000. No, 1000. Che li paga da col professore? Dai, ma stiamo parlando di Sgarbi, che è lì, mentre sei lì, dice Pasolini. Anche Pasolini lo faceva, anche Pasolini. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana io sono stanco. E ancora a casa. Come una muchachita. Gennaro da Caserta, Gennaro. Sì, buonasera. Buonasera, no, dica. Mi volevo rivolgere alla radioascoltatrice prima Giovanna, perché forse non lo sapeva che Cruciani va solo con i trans, ma quelli lì attivi, Guardi che non mi Gennaro, Gennaro, è inutile che fa lo spiritoso. A parte che non mi vergognerei per niente, ma non è quello il punto. Giuseppe, una volta mi sono trovato a parlare con un collega, no, io sono camionista. Lei è? Chi è lei? Camionista. Sì, è un camionista. Bene, allora? Mi ha detto, ma sai perché io la domanda se il camionista, ma come mai Cruciani accanisce troppo quando si parla di transessuale, di omosessualità? Ma tu non lo sai, Cruciani spesso va trans e si fa anche sodomizzare. Ma la domanda era questa, ma è vera sta cosa? Sì, benissima, guardi. Ma che bell'ambientino. Benissima, benissima. Benissima. La radioascoltatrice prima, Giovanna, come faceva? Che vuole fare Gennaro? Comunque, spero. Ma che bell'ambientino. Vabbè, che qual è il problema? Non bello, mi ha fatto una domanda, ho risposto. Ovviamente non è così, però soddisfo, come dire, la curiosità morbosa di questo ascoltatore camionista da Caserta, signor Gennaro, Alfredo da Napoli. E che cos'è? È che è un bell'ambiente. Ambiente di maiali. Senti, era il professore Alfredo. Ma ti rendi conto? Alfredo? Sì, buonasera, mi sente? Sì, dica. Allora, due cose rapidissime volevo dire. Allora, la prima riguarda il fatto che si continua a dire che quelli del PDL difendono Berlusconi. Ma questa è una falsità. Quelli del PDL difendono il loro posto. Berlusconi vale il 70% dei voti che prendono. Senza Berlusconi, quelli lì non valgono nulla. Quindi è una difesa a personam loro, non di Berlusconi. Anche, però è normale, cioè, che si difenda, come dire... il proprio, no? Il proprio riferimento politico. Pensi la Santanchè senza Berlusconi, ma che vale? Vale come il Forse è l'unica che vale a prescindere da Berlusconi un po', comunque. Oliviero Toscani, Oliviero! Cosa fai? Ciao. Cosa fai? Ho sentito che c'è anche Sgarbi. No, è andato, è tornato i suoi affari. Dice che era lì a scopare, figura, ma c'era lì a fare niente come al solito. Ma no, dai. Comunque siete in ritardo, ragazzi, e chiamate per avere l'appuntamento alle 8:15. Hai ragione. Sei tutto in ritardo, caro Cruciani. No, hai ragione e mi devi perdonare. Sei in ritardo in tutto. No, è lui State che... State no, a discutere l'intelligenza del ministro Chienchia. Ma perché deve essere più intelligente degli altri ministri? Ma perché? Ha la stessa intelligenza degli altri ministri. Sì, è vero. Col vantaggio di essere nera in questo paese di razzisti e leghisti. Bravo. Questo è il parere di Parenzo. Secondo me mettere le figurine, mettere le statuine, mettere i simboli. Perché deve essere intelligente quando non si domanda agli altri ministri di esserlo? Ma io non ho detto che è stupida, ho detto che spesso dice. No, la Brambilla, non so, la Brambilla, quella è l'altra che è incazzata sempre con la Morettina. Ma no, la Brambilla che c'entra? No, l'altra Morettina. Chi è la Morettina? Incazzata. Chi è quella incazzata? Non faccio nomi. Ma come lo fai? No? Hai detto la Brambilla da poco? No, la Brambilla sì, perché con un nome così cosa vuoi? Ma scusami un attimo, hai visto Berlusconi si batte come un leone? Sta lì a combattere. Basta. Senti, dimmi. È 20 anni. Sì. Che da italiano all'estero, perché voi siete provinciali, rimanete lì in radio. E perché tu invece che... Lui gira. Si è girato un po' il mondo. È 20 anni che siamo gli stupidi del villaggio. Ma va, per colpa di Berlusconi. Tra l'altro, no, se giri il mondo è così. Fra l'altro sei stupido del villaggio anche quando non l'hai votato, e questo mi fa girare i coglioni. Perché? Ah, perché ti dico, in quanto italiano tu siamo dici gli stupidi del villaggio, mi spiace, ma è così. Ma così. No, ma non siamo è così, ridicoli. Ma non è così. Perché cosa ti... Non è una questione di giustizia per il PD. Non sto difendendo il PD, eh. No, è una questione di giustizia in se stessa, finito. Vabbè, ho capito, ma è finito. Uno si batte per la propria onorabilità, per la propria... Condannato, allora togliamo tutto, togliamo i giudici, perfetto, togliamo gli avvocati, togliamo tutto. Allora, c'è una corte, perché ci sono i giudici, perché tutto... Ma se quello pensa di essere un perseguitato dai magistrati, scusami. Ma lui pensa, tutti pensano così quando sono perseguitati. Tutti lo pensano. Sì, tutti. Sì, è vero, però... E allora... In quel caso no, in quel caso fosse successo a te e tu fossi innocente, sì, ti voterebbero contro, dai, non c'è niente a fare, però lui no, oltre che... Ma no, perché ancora ci ha fatto fare figure da fessi a tutti, ci tiene in ostaggio con la sua televisione. Ma che televisione? Ma come in ostaggio con la televisione? Ostaggio. Ma che ostaggio? Culturale, ostaggio culturale. Ma va, estetico. Ma quale sondaggio estetico? Come andiamo... sai che adesso mia. Anche noi andiamo a fare un programma media, se te lo sai, sì. Sì. Bravi, ma non c'è niente di male. Appunto, meno male. Ma abbiamo tutti il diritto a inquinare un po'. Come a inquinare? A inquinare. Sì. Ma andate insieme, vi prendo, sì, di blocco? Ma in coppia, sì. Vieni a inquinare anche tu un po' con noi, dai, Oliviero, vieni a inquinare. E come no, vengo volentieri. Ma vieni a inquinare ogni giorno, a fare casino ogni giorno, no? Perché... Ma vorrei venire a inquinare, come no? Puoi dire quello che ti pare, guarda. Quello che sì, vuoi. No, ma questo l'ho sempre detto, Camici. Beh, vediamo, dipende sempre dove. Sempre detto, dai. Puoi stare sereno. Ma comunque, dove sei adesso, in Italia? Dov'è? Adesso sono in Italia, sono a casa, domani vado a Napoli perché inaugurano la famosa metropolitana che sono finalmente riusciti a trovarla. Sapete che non l'hanno costruita, l'hanno trovata. Perché? L'hanno trovata in 20 anni, però è bellissima, Napoli è la più bella metropolitana del mondo. Speriamo. No, andate a vedere. Ciao, ti abbraccio, a presto, ciao. Allora, andiamo velocemente, Valerio, Reggio Emilia, 30 secondi, nemmeno. Valerio? Sì, sono pronto, eccomi qua. Sì. Intanto saluti a tutti, mi dispiace. Vada, veloce. Sì, vorrei fare un'offerta per una notte con Sgarbi, pagherei 2000 euro per metterglielo in culo. Tanto mi è simpatico. Ma che schifo. No, Valerio, ma adesso dai, guarda. Marcello così, invece, Marcello? Volevo sapere anch'io se era disponibile per gli uomini oltre che per le donne l'offerta di Sgarbi. Beh, domani ci vediamo, ci aggiorniamo a domani, Questo duro. Ciao, a domani. Ciao. Renzi è più viscido di un'anguilla dentro un preservativo. Certo, gli altri hanno lasciato cadere la famosa saponetta e stiacchi. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ormai è tutto degradato ormai. Radio 24. La passione si sente.